Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Oi, buonasera, Peppe. Miserabile, io se vengo lì bastano 30 secondi che ti polverizzo con il mio genio. Pezzo di merda! Siete criminali! Rumi, rumi, rumi, rumi. Allora, andate al bar! Allora, andate al bar! Caro Parenzo, siamo tornati! Siamo tornati! Buon anno, buon anno! No, perché buon anno, non dire buon anno, no, che mi dà fastidio. Andate a fare il culo tutto. Non dite, non dire buon anno! Oh, no. Buon anno! Anche perché l'amico buon anno, sindaco di Borgo Siamo Sesia, in diretta? Sì, siamo in diretta, fino a prova contraria siamo in diretta. L'amico Bonanno ha istituito il registro. Amico tuo? Amico mio, sì. Il registro delle coppie omosessuali nel suo paese, a Borgo Sesia. Cioè, è un pentimento o una bufala? No, le vuole schedare. Ah, tu dici che le vuole schedare? Sì, cioè, vuole schedare i froci del suo paese. Sì, questa è la ragione, sicuramente, sì. Vuole schedarli. Allora, vi devo dire subito una cosa, caro David, ho rischiato di non essere in diretta oggi. Beh, ma ho rischiato molto seriamente. Nella giornata in cui la Cina affossa le borse mondiali, immagino sia di no, questo non che è tu per vuoi parlare. No, non è per quello. No. Ho rischiato di non essere in diretta oggi per un semplice motivo. Ieri avevo 38,7 di febbre. No. 38,7. L'orecchio gonfio, il collo anche oggi, sono molto infetto. Sembra che io sia molto infetto, ora vorrei fare un appello a molti medici... che sono in ascolto, so che ci sono moltissimi primari, medici, sì, voglio sì. Soprattutto primari, ma anche medici di base, va bene. Primari. Sì, di chiamare sì. E darmi dei consigli. Fino adesso ho consultato diversi medici, domani mattina andrò dal mio medico di base, che, da cui vado pochissime volte per fortuna all'anno, che è semplicemente un numero di telefono e un nome per me. Poveretto quando ti vede domani. Sì, 9:15 appuntamento via Macmahon. Beh, registra tutto, manda tutto in diretta, registra tutto. Però, bellissimo. Scusa, se ti si gonfia una parte del collo, no? Se ti si gonfia del una parte collo del collo o del collo, le ghiandole del collo, una cosa tremenda, le ghiandole del collo. No, e no, poi pensavo anche... ti si fosse ingrossato qualcos'altro che in genere usi spesso. No, ma che c'entra queste no. Battute banali? Ah, vabbè, no, ma chiedo. Cioè, ma... del battutismo di bassissimo livello, sì, cioè sì, non sì. E sei andato pure a vedere che Cozzalone, cioè dovresti essersi innalzato da questo punto di vista, no? Educato alla satira, come dire, di un certo livello, invece no. Le stupendo. Battute ti sei ingrossato il collo, no? Dovrebbe cioè. Esserti ingrossato qualcos'altro, cioè una cosa no, penosa. Di quello che usi tu, dico, vabbè, comunque. Vabbè, quello anche tu, quando lo usi, no. Ti si ingrossa anche a te, cioè non è che non ti si ingrossa. Il cervello. Scusami. No, cervello cioè, siccome uso, tu fai le battute sull'ingrossamento sì. Di qualcosa, no. Tu non è che no. Sei diverso dagli altri. No, cioè, non uso allora, più non mi fare incazzare, che oggi non, mi non uso più niente. Io non uso più non niente. Non usi più niente, vabbè, lo so che il matrimonio, le relazioni di lunga durata. Ho superato tutto, finito, non uso niente. Finito, superato. Ecco. No, neanche superato. No, non è quello. Ah, Giuliano. Il mondo asessuato, il mondo ma no, asessuato. Non serve più. Ma come no? Il no. Sesso non. Dai, Grillo, non è possibile. Anche il sesso non serve più, dai. L'iPad, lo fate voi della Confindustria, il sesso. Una cosa finita, ci si sporca. Si sa già come finisce, poi tutte le volte, uguale. Sudi. Ah, ma che roba è? Ma vabbè, cosa vuol dire? E uno che deve fare, secondo me. Ah, Grillo, secondo lei che deve fare secondo lei? Eleganza, cioè, computer, iPad. Se secondo lei Casaleggio bisogna trombare col computer. Ma basta col computer, premere sul computer, mettere, ma pure quello col navigare, computer. Pure quello col computer. Cioè, online, non ti sporchi neanche virtuale. Sì, vabbè, quello già lo si fa. Lo fanno in Germania, appunto. No, vedi, ma tutto il mondo normale. Si fa. È una roba che fate voi della Confindustria. Ma no, la scoprono tutto il mondo. No, voi soltanto in Italia ormai ancora questa cosa in Confindustria, bomba sé, roba vostra, non c'entra. Oh ragazzi, 38,7 ieri sera, oggi 37, qualcosa, collo gonfio, orecchio gonfio a bestia, come direbbe l'amico Ruffini. Che cazzo devo fare? Io non so che fare, non vado statene dai medici. A casa, ma non sto a casa perché sono drogato. Ma il problema è questo: cioè, che devo fare? Amici medici all'ascolto, cosa cazzo devo fare? Cioè, un giorno che mi avrò l'AIDS, la malattia venere, non lo so che c'ho. Sono infetto, non sono infetto, trasmetto la malattia. Sarà quel coniglio che ti sei mangiato sotto i miei occhi il primo di gennaio. Sì, ma tu dici gli animalisti m'hanno in quella tenuta la enorme che hai in Umbria. Meravigliosa, enorme tenuta, enorme con servitù, gente in livrea, avvocati, ma la roba è arrivato, posti a tavola, 4 bicchieri, 12 posate, sì, ricchezza assoluta, tu distro sul divano, questi poveri cingalesi che arrivavano, dottore, cosa porto ora? Via, tu che li guardavi con uno sguardo, dici, via ora via. E questi che andavano, neanche indietreggiavano senza darti le spalle, capito? Inchinandosi, dottore, scusa, dottore, portato coniglio, scusa, dottore, scusa. Via, la servitù, Umbria, daremo anche la località della tenuta in Umbria nelle prossime puntate. Questo non credo. Vabbè ragazzi, comunque il vero fenomeno di questi giorni è che Cozzalone, che Parenzo ha visto ieri sera, io ancora non ho visto male, questa mattina a RTL pagando i biglietti, che non vorrei mai, grazie, che vuoi non pagare i biglietti. Beh, non ero del cinema del tuo amico Ferrero, che peraltro voglio dirti ha fatto uno spot con lui stesso per promuovere i suoi cinema. Bisogna recuperare quello spot. Tu entri al cinema, ti siedi per vedere che Cozzalone nero in sala e parte lo spot con lui che dice benvenuti. Te lo giuro, al cinema di Natale dovete venire tutti al cinema con i bambini. So quello vero, non so Crozza, che hai detto? C'è lui, ha girato uno spot lui, sì, nel suo cinema. Ma la cosa agghiacciante. Ma perché era? Agghiacciato? Un genio. Ma scusa, la cosa agghiacciante, lì seduto nel suo cinema. Benvenuti. Ho capito, perché se uno fa la promozione delle sue sale, si mangia i popcorn dolci, con Coca-Cola gigante, con la sua bella, aspetta che inizi, che Cozzalone si trova il faccione di questo. Perché è suo. Benvenuto al cinema Ferrero, son Massimo quello vero. Così era. Vabbè, che Cozzalone stamattina, dicevo, che Cozzalone stamattina a RTL ha detto grazie agli indignati, che in realtà non ce ne sono poi, prima ce n'erano su Zalone, ormai sono diventati pochissimi, sì, diciamo, gli intellettuali che snobbano Zalone, persino Celentano, prima pagina sul Corriere della Sera, ma Celentano è anche un zaloniano ante litteram, no? Però gli scettici di prima sono scomparsi col passare degli anni, per cui non ci sono più gli indignati. È un po' Zalone, che è uno che non, cui il consenso al 100% non piace, no, vorrebbe che tornassero gli indignati adesso, gli indignati per Zalone, che non ci sono, eh. Non è che puoi essere simpatico a tutti, anzi, quando c'è questo consenso quasi plebiscitario, quasi paradossalmente senti l'esigenza di ritornare a terra e di trovare qualcuno a cui stai sulle palle, perché ti senti vuoto, no? Potrei avere manie di onnipotenza, quindi continuate a indignarvi. Effettivamente su Zalone si dicono un sacco di cazzate, analisi sociologiche, chissà che cosa. La realtà è che ogni tanto succedono quei miracoli, fatti di professionalità, di creatività e di comicità, per cui tutta l'Italia va al cinema a vedere una persona. Può durare 20, 10, 15, 40 anni, a me sta molto simpatico, per cui potrebbe durare per me anche 50 anni, ma non è questo il punto. Non c'è niente che possa essere spiegato con l'analisi del paese, come si dice, no? Ma semplicemente con un miracolo cinematografico fatto di una persona che ha un volto nazional popolare, punto e basta. Cioè, non c'è nient'altro da spiegare. Quando la gente va al cinema e si diverte dal primo all'ultimo minuto, come credo l'hai fatto tu, no? Assolutamente. Cioè, magari minuto più, minuto meno, non è che tutto riesce al 100%. Fa spazzare quella canzone poi della Prima Repubblica, meravigliosa, guarda, forte. Dottore, avverto un senso di vuoto, di insoddisfazione, un fondo di tristezza che mi attanaglia l'esistenza. Cosa posso prendere? Come si usa? Tenere vicino la porta dei bambini, così la sera escono, vanno al cinema e tuo marito ti dà una botta. Che quello è, signora, quello è. Tutto parte da lì, sempre da lì. tutto parte da lì, dalla botta che ti deve dare tuo marito. Sei un pro, ma non c'entra niente col film. Non c'entra col film, sì. Assolutamente. Tra l'altro, Zalone è molto più efficace, come succede per molte persone, nei film più che nelle interviste, no? Quando viene intervistato, le poche volte che viene intervistato, è normalissimo, cioè non è una spada, insomma, no? Per esempio, io mi ricordo con Giletti, no? Sentiamo un po' con Giletti. Il dottor Luca Medici, che è il vero nome tuo, se non avesse questa famosa maschera che hai creato di Checco Zalone, avrebbe quella particolare attenzione nell'essere abbastanza spietato su alcuni, col sorriso, o quel Luca è un'altra persona? Non l'ho capita la domanda, ti giuro, cioè, fra più... Aspetta che mi amici. Fammela come me la farebbe Barbara D'Urso. Questo è effettivamente geniale, cioè, Giletti ha fatto una domanda un po' strana, un po', no, filosofica. Ma sa che se non fossi Checco Zalone, Luca, una cosa complicatissima. Fammi una domanda. Vabbè, veniamo però a una delle cose di questi giorni, è la bestemmia alla Rai. Ah, pensavo Sgarbi denunciato dagli animalisti. Sgarbi, poi vediamo anche a Sgarbi. La bestemmia alla Rai. Ragazzi, io vi dico solo una cosa. La bestemmia scritta in un SMS durante la notte di Capodanno e durante la trasmissione che verrà. Sì, non so come cavolo si chiamava la trasmissione. È una perché le televisioni devono fare questa barbarie l'ultimo dell'anno? Per quale cavolo di motivo? Perché per intrattenere? Comunque lasciamo perdere. Perché lo tieni lì acceso e vedi. Sì, vabbè, basta, lasciamo perdere la pubblicità, le cose. Quelle... A parte che hanno fatto un accordo con la regione Basilicata per 5 anni con Matera. Questo è il punto. 5 anni di accordo con Matera, amici miei. Non per Matera, perché. Ma la regione Basilicata alla fine incassa da questa cosa o no? No, ha pagato. No, ma lo so, ma alla fine incasserà in troiti. Vabbè, incassa, la gente va là, spenderà, no? Dunque. Ah, perché ha visto la notte di Capodanno? No, spende. Ma tu vai a Matera perché hai visto la diretta di Capodanno. Dici, oh cazzo, no, c'è Matera. Spende con gli alberghi. I pasti. I 300 della Rai che sono andati lì, 300 persone andate lì, sì, negli alberghi, sì. Beh, quelli sono stati pagati direttamente dalla regione. Sì, però non i pasti, da quello che leggo. Da quello che leggo non i pasti. Dunque, qualcosa hanno speso. Comunque poi spendi, quando vai là spendi, no? Nei negozi, nelle cose. Siccome sono stati 20 giorni, signore della Rai, alcuni sono stati anche 20 giorni. 20 giorni. Pagheranno per, no, per altre cose, dunque qualche cosa la regione incassa a livello di consumi non lo so, dell'enorme macchina Rai. Sì, comunque io voglio dire, a parte che sono soldi nostri, cioè appunto, sono soldi dei contribuenti, per 5 anni uno deve pagare 400, mezzo milione di euro all'anno per questa roba qui, vabbè. Comunque poi la bestemmia. E io dico che è stato l'unico motivo per cui si è parlato di quella trasmissione. L'unico motivo, l'unica cosa che giustifica quella trasmissione. Se ne parla ancora oggi, il 4 di gennaio, perché è stata l'unica cosa interessante, perché altrimenti sarebbe... Chi è che si ricorda l'edizione dell'anno scorso? Chi c'era, chi non c'era? Due anni fa, tre anni fa, quattro anni fa, cinque anni fa? Nessuno. Se ne parla quest'anno perché l'edizione di quella bestemmia di un signore che si chiama Zingarelli, che stiamo cercando da 8 ore e non riusciamo a contattarlo, pur avendo 1000 numeri. Questo signore Zingaretti, come si chiama, di 21 anni, una specie di rocchettano, il quale a un certo punto, perché ha bevuto qualche bicchiere, non lo so, ha mandato questo messaggio che è sfuggito ai controlli. Ora io dico, può sfuggire il controllo, ma qual è la discussione? L'Osservatore Romano, il Vaticano, ma ha ragione Freccero, ma che vogliono questi qua? Ma che vuole il Vaticano? È sfuggito un controllo, è sfuggito una bestemmia con tutte le porcherie che accadono in Vaticano, certo, e altrove, rompono i coglioni, la TV fuori controllo. No, è sfuggito un messaggio su 200.000 che arrivano. Adesso fanno il processo a Rai 1, al direttore di Rai 1, alla TV in generale. Primo il Vaticano deve stare zitto con tutte le porcherie che ha fatto di fronte a una frase scritta da un signore di 21 anni. Ma la cosa grave è che hanno svelato il finale di Guerre Stellari, quello è gravissimo. Ah sì, no, ovvio. Quello lo trovo un atto grave, è che io avevo già visto il film, ma se no avrei denunziato con Taormina, infatti l'ho chiamato e ho detto: guarda Carlo, possiamo per cortesia intentare causa? Dice: perché? Perché ero qui con mia figlia non ha visto Guerre Stellari e il servizio pubblico ha svelato la fine di Guerre Stellari, gravissimo. Taormina ha subito detto: certo, denunziamo tutti, blocchiamo la Rai, è una cosa indegna, vergognosa, ho già preso, allora, le gare, ha ragione, ho sequestrato i sassi di Matera, fatto sequestrare tutto, quei sassi orrendi, che cazzo sono quei ma sassi? Che cosa servono? Allora, secondo te a cosa servono i messaggi messaggi durante la diretta, no, della... quelli a guadagnare, a fare cassa. Una... ma scusa, quelli hanno fatto, guadagnato 20.000 euro con quei messaggi. Ah, oh, beh. Siccome erano messaggi, siccome erano messaggi a pagamento, ma è, un ma è un idiota chi li manda, però. Andrebbero interdette le persone che mandano, come... ma uno perché devi... deve pagare? Ma perché uno deve pagare per mandare un messaggio? Ma sai la Rai quanto ha incassato di quei 20.000 euro? Sai quanto ha incassato la Rai in realtà? Una forse 2.000, forse, non esatto, lo so. Bravo. Mi sembra il 2.000 euro perché la percentuale dai, su, è... Dai. Freccero giustamente dice che questi SMS sono sbagliati. Con la crisi drammatica che c'è, intervenire su un orologio sbagliato, su una sincronizzazione sbagliata o su un SMS passato in sovraimpressione, mi sembra mancare di prospettive. Cioè, è una cosa molto banale. Quando non c'è notizie, la Rai diventa subito terreno di notizie. Chiaro? Giustamente Freccero poi se la prende con la Chiesa. Bertone voleva imporre il direttore generale. Pensi a quello, scandaloso. Ma ha ragione lui. Cosa vuole la Chiesa? Cosa vuole il Vaticano per la questione della bestemmia? Però è scappata, adesso, ma è scappata una bestemmia in un SMS, vabbè, d'accordo? Capisci che se scappa, che mamma è brutto, mia, è volgare. Vabbè, ma sarà ma è volgare un SMS alle 2:30 di mattina. È scappata al controllo di un povero Cristo che doveva... Il software non ha funzionato una volta su il 100 milioni. Dai, non su. Ha sì, perché software. C'è un primo... Uno, perché quelli sono diventati furbi, siccome Dio, la parola Dio, non dico quella prima, sennò succede un casino, la parola Dio in realtà è monitorata, no? Cioè sono bloccati tutti i messaggi con la scritta Dio. No, però se tu metti più O, che dato nemmeno, quello l'ha fatto nemmeno, non l'ha fatto volendo, cioè ha scritto così proprio perché ha voluto sottolineare Dio, no? Cioè, è probabile. Sì, non è che l'ha fatto apposta per eludere i controlli. Un attimo, lo scandalo delle email tra Cardinal Bertone ed altro, uno della Banca New York, per imporre il direttore generale. Ma visti quelle cose lì, come fanno a intervenire ancora l'audience? Cioè, veramente, è una cosa scandalosa, vergognosa. Buonasera e buona coda a chi è in macchina. La Zanzara. No, ma dai, ma sempre in ferie voi due. Ma fate più vacanze dei nostri deputati. Che merde. Sgarbi non riposa nemmeno da morto. Allora, parliamo dopo di Sgarbi. Di Sgarbi che non potrebbe dire, secondo un'associazione ambientalista, capra, una cosa ridicola naturalmente. Follia. Ma un'associazione ambientalista che tra l'altro non esiste. È questo che non sa Vittorio. Cioè, Vittorio non sa che questa associazione ambientalista, presieduta da un tale che si chiama Lorenzo Croce, in realtà non esiste. Cioè, rappresenta solo se stesso ed è un costruttore di bufale pazzesco. Questo Croce, cioè una buona parte delle notizie che diffonde via web questa associazione sono delle cose inventate di sana pianta. Te lo ricordi l'avvocato Canzona, Parenzo? Canzona. Avvocato Canzona, sì, è un avvocato che si inventava delle cose, ma per carità, adesso non sto dicendo che è un reato, chi se ne frega, però è stato bravo in questo caso perché ha fatto finire sui giornali una roba anche qui inesistente, perché ovviamente non è che si offende nessuno e poi soprattutto non è che vengono offesi gli animali dal fatto che Sgarbi utilizzi, sì, non è una notizia, la frase che... capre. Allora andiamo con Enrico da Roma, vai Enrico. Sì, buonasera. Dimmi. Ho raccolto il tuo invito su un medico che ti aiutasse a capire che cosa hai. Ah, dimmi caro, dimmi. Ma al telefono come fai? Perché fai il medico tu? Certamente. Fai il medico di che tipo, scusa? Ti chiamavo. Sostanzialmente medicina interna. Medicina interna, dai. Enrico, come mio zio, Enrico Cruciani, medico, sì, vai. Come Enrico Cruciani? Cruciani, no. Enrico Cruciani, no, sì, è lo zio, d'accordo. Non lei. Mio zio si chiama Enrico Cruciani, non tu, sì, certo. Ah, scusa. Vabbè, dimmi. Vabbè, niente, dovresti comunque condire le informazioni, cioè... Vabbè, adesso voglio dire, io ho dato delle informazioni di base, base. Ma per esempio, hai ancora le tonsille? No, nulla, non ce l'ho le tonsille, tolte. Lorenzo, tu hai le tonsille? Sì, io le ho ancora. Hai le tonsille? Ho tutto al posto giusto, diciamo. No, ma che c'entra? Ha chiesto io. Anticipo. Anche Parenzo non proprio tutto al posto suo. Anticipo. Che c'ha Parenzo? Adesso, signor medico, scusi, che cosa ha Parenzo che non ha al posto giusto? Dal momento che è ebreo, qualcosina gli mancherà pure, immagino. Ah, sì, bravo. Vabbè, certo, questo è un dettaglio. A spanne, così. Dettaglio che non le sfugge, bravo. Ma mica tutti gli ebrei sono circoncisi. No, ho detto, beh, sì. Tutti gli ebrei sono circoncisi. Diciamo di sì. Tutti, direi, sì, lo dici come se fosse una notizia clamorosa. Domani la troveremo no, sul giornale tutti, diretto tutti. Da Roberto Napoletano. Una no, ma tutti, non pensavo che tutti. Non pensavo tutti, che tutti. Sì. Ah, tutti. Cioè, lei, perché no? No, ma mica ho detto niente. È una delle prescrizioni, diciamo, maschili. Ma non ho detto nulla, Dunque, tuo figlio già è stato operato. All'età di 7 giorni, non c'è dubbio. Zac. Sì. Ah, certo. Zac, ma sembra che tutto tolto. Mamma mia. Dicono che si fa meglio però all'amore. Sì, questo è vero. Dicono che si trombi meglio. Beh, no, con più facilità. Qualsiasi medico lo sa perché duri di più. Però non credo che il focus economia, non economia, ma il focus è la vabbè, Enrico, del tuo allora, stato dimmi, di dimmi. Salute, non dal mio. Scusa, non ho sentito. No, vai, dimmi allora. Dicevo, bisognerebbe anche approfondire. Per esempio, hai problemi alle ascelle? No, sì, puzza molto. Sì, quello sì, è vero, confermo. Suda, una sudorazione eccessiva, questo è vero. Sì, bravo, anche medico. In questa occasione o è generale? No, sempre perché non okay. Si lava. Però una sudorazione eccessiva. No, ma in questo sì. Caso, vabbè, Enrico, concentriamoci, sennò perdiamo tempo. Allora, secondo te che cosa ho? Sei stronzo. Vabbè, quello mi pare scontato. Secondo me il fatto che io ti ho telefonato, che faccio l'agente di commercio, che non sono un medico, vabbè, e ti ho potuto fare allora, vattene, prendere il culo per un attimo, per me non ammazza, che mazza, oh, che culo che... Che culo. No, però dai, è un assist, è un gol a porta vuota. Poi Sergio da Roma, vabbè, ciao Enrico, Sergio Roma, vai. Sergio, dai, io non sono dottore, ma ti volevo dare veramente un'informazione, siccome sono avuto a casa. Tu probabilmente, ti auguro che no, che non sia una sfiga, potresti avere la mononucleosi. Sì, me l'hanno detto, ma credo, vero. Me l'hanno detto. Se avessi questa cosa, io sono padre dei 6 figli, per cui lo so che succede, se sta in campana, perché la cosa che diventa che te potrebbe arrivare all'orchite se non ti curi bene, cioè la palla grossa come l'orchite è già capitata, già avuta l'orchite. Ah, vabbè, allora c'è l'esperienza. Comunque, se fosse questa in campana, riguardati, perché veramente non è una cosa da quale scherza. Ti auguro di no, però diciamo potrebbe essere, non, cioè me l'hanno esclusa, però i presupposti, infatti domani ti fai il tampone, ci metti un attimo a farlo, guarda. Il tampone è una cazzata, la mononucleosi, se sembra, appena me l'hanno detto sembra una cosa terribile, la mononucleosi, no? Beh, sembra... no, è una malattia, si chiama la malattia del bacio, sì, lo so, a 14 anni, però se la pigli da tutto sono cazzi, insomma, cioè, non è pesante, però è da controllare. Non devi prendere freddo, tutto qua. Non devi prendere? Freddo e devi stare riguardato. Però puoi fare radio. Sei molto contagioso comunque. Qualora l'avessi saresti molto contagioso. Molto contagioso. Però io non sono come quel coglione d'agente di commercio. Io faccio il commercialista, però... di medicina purtroppo... Ma non credo però, non credo che sia la mononucleosi. Non credo. Te lo auguro di no. Non credo. Va bene, Andrea, no. Provincia di Cremona. Vai, Andrea. Ciao Cruciani, buonasera a tutti quanti. Solo una cosa, io da assoluto agnostico e pienamente rispettoso di tutte le religioni, ognuno è libero di credere in qualsiasi Dio crede. Sì, ma non di offendere però, No, un momento, Parenzo, fammi finire. Che non c'è il diritto di offendere. Allora, rispetto tutti quanti, quindi uno può credere in Dio, può credere in Allah, può credere in Manitou, in Buddha, in chiunque sia. Ognuno può avere l'idea di Dio che vuole. Se per me, in questo momento, io non ho l'abitudine di bestemmiare, però ritengo che Dio non sia giusto nei confronti dell'uomo, come ci sono quelli di Forza Italia che vedono Berlusconi e ce n'è altrettanti... Non è esattamente così. Ma io non capisco perché. Vabbè, allora no, non ho capito. Cattolica e religiosa. Non c'è il diritto alla bestemmia, diciamo, non è previsto il diritto. Non è come la libertà di parola, non c'entra niente. Non è previsto dal sistema della religione. La religione, per me, adesso non voglio entrare in merito a questo perché non c'è il tempo, non è la trasmissione. Però è una gabbia dove uno si vuole mettere dentro, crede, fa quello che vuole, liberissimo. Ma io, se non sono d'accordo, ho il diritto di esprimere la mia idea. Sì, perché io posso essere d'accordo con una cosa o posso essere non d'accordo. Ma cosa c'entra? Io, per me, io oggi vengo da un funerale di una persona il cui marito ha perso la figlia, il fratello e la moglie lo stesso anno. Io non bestemmio, però se questa persona oggi dovrebbe dire una bestemmia, penso che ne abbia tutto il diritto. Vabbè, ma che c'entra? Non è che lo dice in diretta televisiva o... Ma che vuol dire? Non è che usa il mezzo pubblico. Se tu bestemmi per strada, Andrea, se tu bestemmi... Sono le solite cazzate che succedono in televisione, cioè quella di mettere i messaggi nei sottotitoli, è una cazzata che fanno solamente per cercare di coinvolgere le persone in una stupidata. Sì, Andrea, se tu infatti bestemmi per strada da solo, non è che ti vengano a prendere i carabinieri o sei sotto processo per qualcosa. Tu puoi avere tutte, tu puoi avere tutte le reazioni che vuoi, non è quello il punto. Diciamo che in pubblico, aspetta un attimo, in pubblico la bestemmia è rimasta, appunto, possiamo dire, uno degli ultimi tabù quasi insuperati, cioè per le bestemmie sono state cacciate delle persone dalla televisione, certo, sia privata che pubblica. Fermi, ci sentiamo tra un attimo. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. Tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 17 su Radio 24 Oscar Giannino vi aspetta con la versione di Oscar. La versione di Oscar in realtà non è il punto di vista di chi vi parla, è soprattutto la serie delle storie strane, singolari, che contraddistinguono la nostra vita di cittadini di fronte a uno Stato che molto spesso ci tratta da sudditi, la storia di come vanno le cose nell'economia e nella finanza italiana, la storia delle tante parti d'Italia in cui questa crisi per anni si faticherà in realtà a farla tornare a dei livelli di reddito, prodotto, investimenti necessari davvero a restituirci a quello che eravamo nel 2008. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì alle 16.30 alle 17 su Radio 24, la versione di Oscar. Non mancate! La Zanzara. Ma che senso ha fare 10 minuti di trasmissione e poi un'ora di fermo? Porca puttana! Ma chi cazzo ve lo fa il palinsesto Topolino? Siete incredibili. Il mio vicino di casa, un rumeno che non riesce nemmeno a dire buongiorno in italiano, prima in macchina ascoltava la Zanzara. Siete universali. La mia ragazza è innamorata di Parenzo, non so più cosa fare. Aiutatemi! Cruciani, stiamo guidando in India e ci stiamo scassando di Zanzara. Ci hai distratto un attimo, abbiamo tirato sotto una scimmia. Siamo al top! Siamo al top assoluto, eh! Oggi è il mio compleanno e ritorna la Zanzara. Non avrei potuto ricevere il regalo più bello di questo. Mi raccomando però, Crucia, vedi di non schiattare. Grazie Roberto D'Agostino, no, grazie al cazzo. È stato chiarissimo. Grazie al cazzo. Senza controllo sanitario. It wasn't easy. Adesso arriva, arriva, arriva. Vabbè, dai. Claudio da Milano, 800240024, come al solito. No, Giuseppe, sono preoccupato per te. Perché sei preoccupato, Claudio? Perché dimmi. Se hai una parotite, potrebbe venire parotite. Ma dai, basta con sta parotite. Perché? Che c'entra la parotite adesso? Scusami. Scusa, sei gonfio sulla parotite. Sì, ma non ho dolore, capito? Non c'è dolore. Cioè, non è... Però sembra che hai gli orecchioni. Vabbè, ma adesso gli orecchioni, no, dai, me l'hanno escluso gli orecchioni. No. Poi gli orecchioni sono tutti e due. Chi te l'ha escluso? Ma tu fai il medico, tu, scusami. Certo, sono primario. Ma di che cosa primario? Adesso uno si può spacciare. Primario medico. Come fai primario. Di cognome? Come fai di cognome? Sassaroli, come quello di amici miei. Vabbè, ho capito. Allora uno può dire qualsiasi cosa, amico mio. Sono primario. Quello ha detto prima, no, sono medico. E poi faceva il camionista, scusami. Ti sei vaccinato da piccolo? Ma sì, certo che mi sono vaccinato. Per la parotite, ti sei vaccinato? Ah, no, credo di no. Era un vaccino multiplo. No, amico mio, no, per la parotite non credo. Comunque, qual è il problema? No, perché sono preoccupato perché diventi azospermico e diventi sterile. Vabbè, sterile adesso a 50 anni, un po' chi se ne frega, sì. Diciamo, uno potrebbe dire. Chi se ne frega, mi spiace perché io vorrei avere tanti crucianini. Ah, scusami, Claudio, però adesso veramente fai il primario tu? Sì, sono serio, sono qui con la famiglia che ride. Certo, sono no, primario. Però scusami. Allora, quale ospedale esiste? No, vabbè, ma è giusto che uno non voglia dirlo. Diamo credito a Claudio. No, mica dici dove sei? Sono dell'Andrangheta. No, è un medico. No, ma però io ci voglio credere. No, Parenzo, dai, adesso Parenzo, se vuoi ti dico anche l'ospedale, però non mi sembra giusto, c'è la privacy, dai. Vabbè, se uno parla, fa riconoscere la propria voce, la privacy non esiste. Cioè, chi ti vuole riconoscere ti ha già riconosciuto, Claudio. Cioè, questo non c'è dubbio. Però, vabbè, insomma, il punto è che c'è un solo orecchio interessato, c'è solo una parte interessata. Sì, ma non importa, può essere monolaterale. Una parotite monolaterale. Ma la parotite comporta anche del dolore, cioè, alla parte interessata. Non è detto, perché può essere una forma frusta. Può essere una forma frusta, è una certa età. Una forma frusta di parotite, dunque può diventare che può diventare che cosa? Otite? Sì, devi stare attento se non ti viene il dolore ai testicoli. Sì, vabbè, d'accordo. Che c'entra? Non ho dolore. Che c'entra l'orecchio col testicolo? Scusa, spiegami. Purtroppo è una forma virale, può colpire i testicoli e puoi diventare azospermico. Vabbè, ma quello può colpire la... internet. No, ma internet, ho capito, questo già una volta io ho avuto l'orchite, detta anche epididimide. No, già... quella è un'altra cosa, è batterica, mentre la parotite è virale. È virale, dunque il rischio è la parotite, però la parotite si accompagna a un certo dolore, no? A un certo... Ma può essere una forma frusta, perché hai avuto la febbre solamente un giorno e oggi già... è calata, per cui però è grave, comunque il sono preoccupato. Però no, ma credi, il rischio qual è? Qual è la cura? Innanzitutto, mettiamo che sia come dici tu, la parotite. Purtroppo la cura è sintomatica, perché essendo virale non è un bacchetto, cioè antibiotici non fanno niente. Beh, non c'è cura alle volte, guarda, non c'è cura, gli scrivono antibiotici qui. Non fanno niente, devi fare una cura sintomatica, cioè antipiretici, antinfiammatori, antidolorifici, grande riposo la tachipirina, a casa, la grande cura, la tachipirina. No, a riposo a casa, che quale riposo a casa? Che no, grande ore di riposo a casa. No, però sei infetto, sono per infetto, giorni, sì, quelli... per 9 giorni sei infetto. Per 9 vai giorni su a dopo. Salutare il napoletano, vai su, sei vai giorni su. Prima, abbraccio, e 9 giorni come abbracci? Perché non hai mai abbracciato? Abbraccialo così, abbraccio. Per cui stai attento con chi non baciare nessuno, sicuramente. Non baciare nessuno, adesso non esageriamo. Per 9 giorni non devi baciare nessuno. Che schifo. Ma allora, noi ci siamo visti l'uno, non è che mai attaccato qualche posso porcheria? No, ma me l'hai attaccata tu, cioè tuo figlio. Ma io sto benissimo. Tuo figlio. Speriamo che ti abbia attaccato qualcosa. Certo. Dai, su, una cosa incredibile. No, comunque, sei l'unico malato. Si trasmette con le goccioline di Flug, cioè praticamente hai capito? Con la saliva, per cui non devi parlare vicino a nessuno. Ecco, questo è... Non devi parlare vicino a nessuno. Ma stai in queste condizioni, si sta a casa. Ma perché sì, uno deve stare a casa? Io non voglio stare a casa, mi rompo i coglioni. Non devi stare a casa, però non devi trasmettere la malattia. Tanti sono quello. Vaccinati, ragazzi, ma vaccinati a che cosa? La parotite? Certo. Fissato con sta parotite, questo qua. Oh, è fissato con sta parotite, incredibile. Ma per me, adesso così, dai sintomi, adesso non so, dovrei visitarti. Non so, sei di Milano. Vieni. Certo. Vabbè, richiamami domani privatamente, do il mio studio, vieni di visita. Vabbè, magari si scopre che è un macellaio. Che tipo di primario sei? Di che specialità? Di macelleria. Medicina interna, dici? Medicina interna. Certo, sì. Vabbè, scrivimi, che ti devo dire? gcruciani@radio24.it. Scrivimi. Ah, ok, vabbè. Scrivimi in privato, dammi le tue coordinate, perché io in un giorno e mezzo non ci ho capito un cazzo. Magari sono malatissimo, Parenzo, non lo so, capito? Magari sono sul punto di morire, non lo so. Dovresti smettere. No, non sei sul punto di morire. No, ma non voglio prendermi qualcosa di grave. Io poi divento pazzo, quando sono malato divento nervoso, ma si sente anche dalla voce, stai tranquillo. L'unica complicanza grave è l'azospermia. Ma quale azospermia? Adesso sei arrivato dalla parotite all'azospermia. Scusa, ma tu dovresti essere primario, non dico rassicurare, per carità, io vengo dalla famiglia dei medici. Ma scherzo, ci vuole un po' di battute, ma non a tutti viene l'azospermia. Vabbè, meglio sdrammatizzare perché è grave la situazione. No, infatti. Va bene, Alessandra Venezia, ciao Claudio, scrivimi. Alessandra Venezia, vai. Ciao a tutti. Dimmi. Buona guarigione a questo punto. Vai. Io volevo intervenire sulla trasmissione di Rai 1, che al di là della bestemmia del countdown sbagliato, amen, è andata così. Ma chi se ne frega pure del countdown sbagliato? Ma guarda che se andate, io vado ai matti, il countdown sbagliato, un danno agli ascoltatori, a parte che lo fanno apposta, lo fanno apposta per prendere ascolti. Cioè, di solito è così. Ma che ascolti prendi? Ma lascia perdere quello 0, che serve ai dirigenti per dire cazzo, abbiamo fatto meglio di Canale 5, cioè tutta questa cosa ridicola. Però il punto è un altro, ma chi se ne frega se è stato anticipato di un minuto? Ma chi se ne fotte? Beh, insomma, però. Ma dai, su, ma chi se ne frega? Alessandra. C'è molto di più. No, infatti quello non importa, c'è molto di più da dire su una trasmissione assolutamente mediocre, diciamo scena. Stiamo pagando tutti questa minestra indecente che ci propinano. E francamente trovo assurdo. Lì sì che si darebbe da dire. Ma che cosa? C'erano dei cantanti, insomma, delle ballerine, che male c'è? Le donnine, uguali. Che sono le donnine? Quali sarebbero le donnine? Ma insomma, era inguardabile questa trasmissione. Ma è possibile che ci devono propinare sta minestra? È assurdo. Beh, guardi che ha assurdo. Fatto un record ascolti, il che vuol dire che la maggior parte degli italiani l'hanno visto. Ma scusi, il punto che male c'è? Ma il punto sono le donnine, non ho capito. Io le ho provate patetiche. Ma che cosa ti dà fastidio? Che ci siano delle persone un po' nude sullo schermo? Ma quali nude? Che era un freddo bestiale, tutti vestiti. Le ho provate fuori contesto. In minigonna a 3 gradi. E vabbè, ma come devono stare? Dove le ha viste le minigonne? Dove le ha viste? Che erano tutti con dei cappotti pazzeschi. Tutti uguali, tutti con lo stesso tipo di vestitino, lo stesso tipo di trucco. Gli spettacoli di fine anno sono tutti uguali. Sono tutti uguali. E vabbè, sono bruttissimi, servono a così a restare attaccati. Secondo me erano tutti lì col televisore acceso, semplicemente così, ma nessuno guardava. Vabbè, Mauro, ciao, Mauro Mantova, chi è Mauro al solito? Chi è? Mauro? Che c'è, Mauro? Che c'è? Mauro, dimmi, ciao. Ascolta, quella cornata che hai lì, quello spigato, quello di attore che hai in fianco, ma schiaccialo come uno scarafaggio sul fronte. Che non c'è un cazzo. Aspetta. Cosa lo tieni lì a fare? Che porta solo rogna. Che cozzalone! Ma sai che è bravo? Che cozzalone! Ho fatto 7 milioni! Mandalo a fanculo! Ragazzi, però state calmi, se no non si capisce niente. Allora, prima Mauro, poi Mauro, dimmi. Ascolta, ma cos'è sta stronzata, la bestemmia o non la bestemmia? Ma la bestemmia è mandare in onda la trasmissione come Arena. Arena. Ma che c'ha l'arena? Ma che t'ha fatto? Di Giletti. Ma che t'ha fatto Giletti adesso? Dai, ma su. Leccaculo, porca puttana! Ma non è un leccaculo. Come Mazzoli. Mazzoli, prima lecca il culo a Berlusconi, poi va a leccare il culo cioè che ti prende dei Benedetti. Ancora. Ha avuto i soldini, il coglione. Ma chi? Coglione. Chi? Mazzoli. Ma tu non conosci Mazzoli. Ma questo è fissato. Ma chi se ne frega di Mazzoli? Ma Ma sai chi è che cozzalone? Un ruffiano, un pezzo di merda. Vabbè, d'accordo. Vabbè, ma lascia perdere adesso, Mazzoli. Ma che c'entra? Perché devi insultare la gente? Dai, su. Ma è un pezzo di merda. Vabbè, ma cosa c'entra adesso? Cosa c'entra? Ma cioè, perché ci fanno meraviglia? Ma poi ascolta, c'è stata fatta meraviglia. A me non me ne frega niente. Aspetta un attimo, cosa vuoi dire sulle bestie? Ma lascia perdere, Mazzoli, lascialo perdere. Va bene. Allora, hanno fatto una meraviglia per una bestemmia. Ma la Rai! La Rai è una bestemmia! Ma lo sai che io fermo. Io dovrei pagare nella bolletta che sono a reddito zero grazie a quell'ebreo di merda di Monti, che è il cognato di De Benedetti. Monti, cognato di De Benedetti, ho portato le fotocopie. Te le ho portate, perché io non dico cazzate, io le dico e te le posso anche portare. Tu sei a reddito zero perché non lavori, diciamo la verità. Grazie, cioè. Chi mi dà un lavoro, uno così? Non lavoro più matto. Come prima, grazie a quel passando di Monti. Ma no, Mauro, dai, non lavori perché non lavori, punto, non per colpa di Monti. Hanno ammazzato la media impresa, ma tu lo sai che nel 2011, solo quell'anno lì ci sono stati 116 suicidi. Vabbè, maestro, non è che tu non lavori per colpa di Monti. Peccato, sono 117, guarda, con lui. Chi ha creato la recessione, porca troia? Ma chi l'ha creato? Vabbè, Mauro, io non ho capito una cosa. Adesso tu sei passato, adesso non voglio dire niente, non voglio dare ragione a Parenzo per forza, però sei passato dalla bestemmia alla Rai a Monti ebreo. Qualcosa non torna, Parenzo, tu che dici? Qualcosa... Ascolta! E che cozzalone! E 23 milioni! Che cozzalone! Che cozzalone! Che cozzalone! Sai che amico di De Benedetti? Che cozzalone! E di Monti? Io lo ammazzo di botte veramente. Mamma mia! Che cozzalone di merda! Sai cos'è nel comune? Che cozzalone di Benedetti? Non è un essere umano! Quello non dovrebbe nemmeno esistere! Ha ragione Lavanna Marchi in quella vecchia intervista! Non dovrebbe nemmeno girare per strada quel coglione lì! Perché è talmente idiota che non merita nemmeno di vivere, sto stronzo! Ascolta, Cruciani! Dimmi! Praticamente la Rai è stata preconfezionata da quei tre dittatori che praticamente fanno i dittatori da 5 anni. Ma chi? Napolitano, magistratura democratica. Ma che c'entra la magistratura? Ma cosa, c'entra con la bestemmia la Rai? Sono stati loro. Ma perché ascolta la Rai? La Rai non si muove un dito se non c'è l'approvazione di chi? Di Sharon, di Netanyahu, magistratura democratica e quella marmaglia lì. E c'è stato Netanyahu anche! E Netanyahu! E Bibi Netanyahu! Tu lo sai? Che hanno lo sai allora tu? Chi governa la RAI? Lo sai o no? È il rabbino! È il rabbino, è Netanyahu, è la RAI! Lo sai te? Fai sta zitto quella merdaccia lì! Fai sta zitto quella merdaccia! Invece che cerca di coprire la realtà a sto deficiente! Allora, il complotto Berlusconi l'hanno ordito in corso Garibaldi. Aspetta, fermo. Enrico, concentriamoci, sennò perdiamo tempo. Allora, secondo te che cosa ho? Sei stronzo. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato, pubblici. La zanzara. Sei uno stronzo seguito tu, Cruciale, veramente. E tu lo sai che più fai ingazzare la gente più ti seguono. Seguite lo stronzo di Cruciani. E quell'altro beccamotto di Parenzo. Che quando parla per una gallina vecchia parla. Cari amici miei della zanzara, siamo al top, siamo veramente al top. Allora, con il 2016 è tornato anche Mauro da Mantova, che però non capisco cosa voglia dire, perché secondo lui la RAI è controllata non so da chi. Mauro, scusami, da chi sarebbe controllata la RAI? Ascolta, amico, te lo devo anche dire da chi? Da chi è controllata? Da ma chi? Ascolta, ma lo sai benissimo. No, sulla questione della bolletta devo dire la verità. Sulla bolletta, sul canone in bolletta, ha quasi ragione Mauro, devo dire la verità, Parenzo. No, Aspetta. No, ma la cosa incredibile, la questione del canone in bolletta è una roba quasi incostituzionale. A mio parere quasi, è quasi incostituzionale. Quasi! È anticostituzionale! Zagrebelsky sta parlando, senti è Gustavo. È una dittatura, porca puttana! Vabbè, senti Gustavo, come si fa a mettere obbligatorio il canone in bolletta? Se io la voglio almeno vedere nemmeno sfiorata proprio. Non voglio vedere la scritta Rai. Non la voglio vedere. Vabbè, ok, ho capito. Allora? Ah, scusami bene, ma io cosa devo sentire? Sto stronzo di Renzi che mi dice al TG tutto va bene, l'Italia sta crescendo. Che cazzo sta crescendo? Che continuano a calare i posti di lavoro? Che cazzo dici? Vabbè. Che io sono anoressico, che sono 103 kg, posso raccontare di essere anoressico? Io, brutto coglione! Vabbè, ma ora abbiamo capito. Te lo dico in faccia, ti sputo pure in faccia, brutto è il leccaculo dei Prodi e dei Benedetti. Ma quel ancora, ma che c'entra? Che faccia io a quel coglione! Ma basta! Coglione! Parenzo, non hai nulla da dire? Ok? S- ok! Uno che dice è che nega l'evidenza! Ok! È un coglione! Sai chi è stato a mettere il canone della Rai in bolletta? Coglione. Sai chi è stato? Checco Zalone! Perché scusa, che cosa? Cosa c'è? Ha fatto in due giorni 22 miliardi! Checco Zalone! È stato lui! D'accordo con Netanyahu e il rabbino capo di Gerusalemme! Scusami, Mauro da Mantova, ma cosa c'entra il rabbino capo di Gerusalemme con la Rai? Cosa c'entra? Cruciani! Non lo sai cosa c'entra? E dice no, francamente è difficile capire cosa c'entra il rabbino capo di Gerusalemme. Alla Rai! Cosa c'entra? Ma l'hai visto quell'altro? Chi? Tronchetti Brera! E quanti cognomi ha? Tronchetti Brera? Dice no, è uno solo. Tronchetti Brera. Sto scemo! Metti un uccello in bocca che è quello che aspetta! Sto fraccio di merda! Sto fraccio! Frocione! Allora, sai come lo vedo io? Parenzo? Mamma mia! Sai come lo vedo? Allora, sai come è stato? Sai come è stato Valsecchi! Ma cosa c'entra Valsecchi? È stato Valsecchi! Ma scusa, Valsecchi è ebreo! Ma no, guarda, ti assicuro di no, veramente è cattolico. Scusa, il successo di Zalone tu come te lo spieghi, Mauro? Ascolta! Come me lo vedo quell'idiota che c'hai a fianco, sto stronzo? In un club, lui è il cook, è il marito che offre la sua lei ai burri, vabbè, ma che ai sorelli. Lui è il classico cook che porta la moglie a far coprire, perché lui non ce la fa più, perché è un fraccio, non gli viene duro davanti una donna, e non la porta la botta, quel coglione fraccio di merda, quello è un guerriere di merda, pure ebreo. Com'è che fa? Questo è l'immagine di lui, un cornuto contento e consenziente. Sei idiota di merda! Sai chi è il califfo? De Benedetti! Ma siccome il califfo? De Benedetti è il califfo! È lui che dai! Almeno la merda cucciva! Non serve nemmeno quello! Ascolta! Poi Cruciani! E sai chi è lui, Sai chi è? Mettici un uccello in bocca, sto scemo! Vai, basta! Cruciani! Far cadere le borse in Cina? Checco Zalone è stato! Ascolta, per parlare ti mando a fanculo, Dimmi Mauro, dimmi. Il complotto Berlusconi nel 2010 è stato ordito al Palabam, alla sala convegni della Banca Agricola Mantovana Monte dei Paschi di Siena, che è la stessa cosa. Banca Agricola Mantovana e Monte Paschi di Siena. Sì. Monte Paschi di Siena è come Banca Commerciale Italiana e Banca San Paolo, è la stessa cosa. Mm-hmm. Perché quell'ebreo di De Benedetti ha cominciato a scalarla con i soldi del gruppo IRI che glieli dava a Prodi. Sai dove è il conto che Cozzalone alla Banca Mantovana? Ma cioè non è vero, vale, sta in Puglia, cazzo, va il conto in Puglia, no? Che Cozzalone è stato lui, è stato qualcuno te, poi anche quell'idiota che c'è in fianco, che è un idiota deficiente. Questo è il verso. Sto imbecille. A Mantova, un'azienda fallita dall'inizio, dal primo giorno. Quando organizzeremo la cena, poche deficiente, che con un bel limone nel culo e rosmarino su per le orecchie, lo metto lo schieno. Vabbè. Ciao Mauro, ciao. Ciao. Ragazzi, comunque la cosa più incredibile che ho letto oggi è un'intervista pubblicata da Libero, caro Parenzo, da Libero, ad una signora, non so di dove, la quale dice di avere adottato una nutria. Adottato una nutria. Ma come normale? Normale adottare una nutria? Beh, è normale. Sì, soprattutto è meglio di avere un figlio. È meglio di avere un figlio. Ho salvato Maria 3 anni fa. Le do la pasta, la porto. La nutria. Maria con l'H. Sì, con l'H finale. Maria 3 anni fa. Le do la pasta, la porto ai parti e la notte mi chiama. La notte mi chiama. Non causano malattie e nemmeno inondazioni. La gente le odia solo per ignoranza. Poi ci informa che esistono i nutria party di Vento Mazzo. Io voglio andare a un nutria party. No, giù. Ma anche sì, solo sì, quello. Aspetta, aspetta. Ferma, ferma. Cosa sono i nutria party? Gli appassionati di nutrie, come me, si conoscono tutti, chattano su Facebook e spesso organizzano momenti di ritrovo. Io ho partecipato ad alcuni di questi incontri. C'è il padrone, la nutria e qualche altro animale. Si fa festa tutti quanti assieme, in libertà. No, no, senti, senti. La cosa più bella è questa. In quelle occasioni cerco di stare un po' in disparte. Non voglio essere una padrona soffocante. Lascio che Maria faccia i suoi giri, vada a esplorare. No, ma tu ti rendi conto o no? No, va bene. Cioè, non voglio essere... Uno va bene prendersi in casa una nutria, per carità. Va, va bene, no. Però, no. Se uno si vuole... prendere in casa una nutria, si prenda in casa una nutria, chi se ne frega, no? Sì, appunto. Cioè, uno può fare quello che vuole. La mia giornata non cambia, guarda, no, ti assicuro. Tu la porti a una festa organizzata da appassionati di nutrie. Vabbè. E già questo siamo nel campo, non dico della follia, ma insomma ci si avvicina abbastanza, no? Alla follia, ci molto. Si avvicina abbastanza. Dopodiché non ti accontenti di portare questa, la tua nutria ad una festa dove si incontra con altre nutrie e con altri animali, ma siccome non vuoi essere una padrona soffocante... ti tieni un po' in disparte, in modo che la nutria faccia i suoi giri, che vada a esplorare intorno. Siamo ad alti livelli qua, eh? Ah, su. Ma sentiamo, sentiamo la sua voce, la voce di questa signora. Lei quando è in giardino e si stufa mi chiama perché vuole entrare, ho dei gradini per sedere, si mette sopra i gradini e mi chiama come dire fammi entrare, voglio entrare in casa. Sì. Fa il bagnetto 2 volte al giorno, 2 o 3 volte, l'estate le fa anche di più il bagnetto, glielo faccio io ovviamente. Maraia mi dicono, si chiami Maraia, si pronunci Maraia. In casa com'è? Com'è? Io ho un giardino bello grande, quindi sì. Passa le sue giornate in giardino col suo carrello, sì. Se no quando magari fa troppo freddo, magari non vuole stare fuori, gira per casa insieme a... Io ho anche una cagnolina e un coniglietto, ah. Che abbiamo visto prima nel video, sì, esatto. Che è il suo fidanzato ideale, esatto. Ma l'idea di poterne salvare anche soltanto uno... Mi riempie veramente di gioia perché c'è veramente un'ingiustizia verso questi animali, quindi anche il semplice fatto di averne salvata una sola su tutti i milioni che ci sono, per sì. Me è una cosa... Poi mi sembra, adesso non vorrei sembrare troppo romantica, che lei apprezzi questa cosa. Eh beh certo, non c'è dubbio, lo capisce, capisce che tu l'hai salvata dalla morte, dunque ti è riconoscente. Essendo io amante di questo genere di animali sono andata a recuperarla, insomma è stato un po' difficile perché non si faceva prendere, aveva tutti i denti rotti, aveva beh, a parte la spina dorsale spezzata anche il polso, l'abbiamo scoperto dopo, anche lì era rotto il polso, sì. L'abbiamo recuperata con un po' di difficoltà, me la sono portata a casa, l'ho portata al giorno per il veterinario, ho fatto l'aste, risonanza magnetica, così il verdetto era inesorabile, sarebbe rimasta paralizzata, mi hanno consigliato comunque se tu hai pazienza e voglia amore di tenerla così, le faremo una vita decorosa, sì, insomma. Allora... Sì. La risonanza magnetica alla nutria. Ragazzi, siamo veramente al top assoluto. Quando questa signora ha detto i bimbi non mi sono mai piaciuti, mi disturbano, mi stressa molto più un bimbo che piange di un cane che abbaia per me. Vabbè, questo... Non voglio sminuire l'importanza dei figli, ma riesco a instaurare un rapporto migliore con gli animali. Se io potessi fare un figlio, sapendo già che uscirà nutria o topo, sarei felice. No, ragazzi, non è possibile, dai. Serafino da Ravenna, vai. Serafino, pronto? Vai. Senti, Cruciani, io ho avuto ho un amico che ha avuto i tuoi stessi sintomi, sì, ed è andato a finire proprio male, perché è stato colpito proprio lì dove diceva prima il primario. Sì, sì. Allora vorrei approfittare, sì, per fare un appello a tutti gli italiani che usino tutti i loro poteri personali affinché ti colpisca proprio lì e che tu rimanga un bel castrato impotente. Allora, questo fa notizia. Scusami, non ho capito, Serafino. Tu ti auguri che io rimanga addirittura impotente? Impotente. Ma certamente, ma no, non sono io, sono tanti. Ho già telefonato a 4-5 amici che ti avrei fatto questa cosa, che ti ho telefonato, e sono tutti che stanno ascoltando, si stanno telefonando, e tu adesso mi stai dando l'occasione per ampliare. Cioè, tu ti fai portavoce di una specie di piccolo comitato, diciamo, no? Di piccolo comitato. Perché tu, impotente, sarebbe proprio quello che ti deve capitare. Allora dopo ti ascolteremo più volentieri, perché tu sei uno che se ne frega dei mali degli altri, finisci sempre dicendo me ne frego. E allora adesso, Cruciani impotente, stiamo lanciando il comitato. Ma io dai, su, ma il comitato perché io rimanga impotente, dai, su. Sì, sì, sì, perché questo virus ti vado a finire proprio lì, perché ci sono delle serie probabilità. Ma delle serie probabilità di cosa? Ma non è vero, non è così. Sì, ha ragione il primario, guarda, il mio amico è successo, un dramma. Ma un cosa dramma è successo al tuo amico, scusa, cosa è successo? Pensa quanto la tua platea di ascoltatori quanto aumenterebbe se ti succedesse veramente. Ma no, ma sarebbe un dramma, chi se ne frega, scusami. Chi se ne frega, rivolto te stavolta. Vabbè, ciao Serafino. Ciao. Guarda che c'è gente strana. Allora, in giro, c'è gente strana in giro. Ricominciamo con lunedì, Matteo Salvini con noi, buonasera. Buonasera e buon anno anche ai fenomeni come quello che ha appena telefonato. telefonano in tanti, come dove sai? Dove sei, in vacanza, dove sei, in montagna? No, sono a Milano, Bergamo. Sono sul pezzo, sono a verificare che vada a buon fine i 400 euro al mese che Pisapia darà alle famiglie che ospiteranno un migrante. Perché bello, giusto, molto cose. Bello questo è giusto, molto bel gesto. Bello, sì, infatti sì. Di milanesi che hanno bisogno non ce ne sono in giro, è giusto dare 400 euro a chi ospita il migrante perché fa più figo e Parenzo potrebbe perfino farlo. Ma io non sapevo questa cosa, che cos'è che fa Pisapia Parenzo, non ho capito. No, ha dato un contributo di solidarietà a quelle famiglie che volontariamente decidono di ospitare in casa un migrante, quindi a titolo, come dire, di risarcimento per scusa, pagare io, le cose io però mi chiedo una cosa, no, va benissimo tutto, per carità, io non credo non che va lo... bene. No, io non va bene. No, va bene tutto in senso generico, dico, però perché uno deve ospitare, io non deve. Domando... No, no, ma deve. Perché uno deve avere dei soldi perché ospita un migrante? Uno fa una scelta e se ne fa carico, se uno proprio deve fare una scelta. Perché uno, perché lo Stato ci deve mettere dei soldi se tu fai una scelta? Bravo. Cioè, se tu fai una scelta volontaria, no? Cioè, tu prendi in casa un immigrato, vabbè, d'accordo. Liberissimo, gli paghi vitto e alloggio, puoi fare quello che vuoi. Ma non capisco perché io devo pagare. Ma non capisco perché io devo pagare per questa cosa. Io, cittadino di Milano, peraltro, residente a Milano, devo pagare per chi vuole ospitare a casa un immigrato. Beh, per quale motivo? Ma io pago per gli ospedali che non uso, no? Eppure è un servizio sociale. E io magari non vado mai all'ospedale, adesso, cioè, magari no, faccio le corna. Io non vado mai. Sono tanti servizi che io non uso mai, eppure pago, no? Ma ad come esempio sa il buon Parenzo che, a proposito di immigrati, solo gli ospedali lombardi spendono 100 milioni di euro all'anno, 100 milioni, meno male, per cure prestate ai migranti clandestini. E meno male! Cioè, secondo te un clandestino ha diritto alle cure oppure no? Le deve pure pagare. Cioè le paghi, dici, un clandestino deve pagare, tu dici, deve pagare. Assolutamente, ma ci sono donne che fanno 5 o 6 interruzioni di gravidanza a gratis, come se fosse lo sportello automatico dell'aborto negli ospedali milanesi, è giusto perché Parenzo lo sappia. No, ma infatti va insegnato che non è una tecnica abortiva, non è una tecnica anticoncezionale, sì, l'aborto. Non capisco perché il pensionato, adesso uno può dire è populista, però perché il pensionato paga il ticket uno che è qua abusivamente, legalmente è tutto gratis. Cioè è meglio quindi lasciarlo scorazzare per la città, no, con, senza controlli lo fai sanitari. Pagare come capita in altre realtà europee più evolute delle nostre. No, solo negli Stati Uniti si paga la sanità, non è che se no, uno in Spagna, in Gran Bretagna, caro. Non è il mio modello la Gran Io Bretagna. Io salvo e curo tutti, però se paga l'italiano paga anche l'immigrato clandestino, anzi paga il doppio perché è clandestino. Ah, il doppio. E beh, qua abusivamente, vai a fare il clandestino in Svizzera, vai a farti curare da clandestino in ospedale svizzera. Cioè il clandestino, secondo te, paga il doppio. Dovrebbe pagare il doppio alla sanità. Beh, però assolutamente, non è... e poi dovrebbe essere espulso con tutte le urbanità. Cioè, e se, se ha urgenza va tutti assistito, vanno soccorsi, però, tutti però vanno salvati, però, tutti vanno vanno però il clandestino, giustamente, tu dici, perché siccome non dovrebbe stare qua, deve pagare il doppio. E poi va cacciato. Senti, a proposito di Zalone, che è uno degli argomenti del L'hai giorno. Visto grande, film, eh? Hai visto il film? Non ancora, ma non ho avuto tempo di andare al cinema, onestamente, ma mi propongo di farlo perché a me Zalone piace. Ah, dunque, c'è una cosa che accomuna te e Renzi alla fine, eh? Cioè, anche Renzi ha portato la famiglia, dice che i figli si sono divertiti come matti. Vabbè, mica è un delitto, in questo caso. Beh, cioè. Si chiama anche Matteo, quindi ci sono tante cose che possono accomunarsi. Anche perché così a occhio mi sembra l'esempio di qualcuno che può avere successo nel mondo del cinema, dell'arte, del teatro, della cosiddetta cultura, pur non essendo schierato a sinistra. Ma non sappiamo dove è schierato veramente Zalone. Ma almeno non è uno di quelli che fa i fenomeni girotondi, il popolo viola, il popolo lilla e quelle menate lì. Cioè, fa non è il suo mestiere, lo fa bene. Sì, diciamo che più che non essere schierato a sinistra se ne fotte, diciamo. In Italia è già tanto, perché in certi ambienti pseudoculturali, premi letterali, circuiti, se non sei di sinistra non entri. Una volta addirittura Brunetta, se non sbaglio, Parenzo, lo aveva classificato, comunque arruolato tra i suoi, o sbaglio? Cioè, No, questo non mi interessa, può pensarlo come vuole, però... che non faccia leccapiedi della sinistra gli rende vanto. Cioè, secondo te è uno dei motivi del successo anche trasversale di Zalone il fatto che non faccia i leccapiedi della sinistra, tu dici? Diciamo dei salotti. Che non si schieri, che non faccia i pipponi, non firmi i soliti appelli alla Gad Lerner, alla Nanni Moretti, eccetera, eccetera, eccetera. Parenzo, ti ricordi ci fu quella polemica con Brunetta, no? Di Zalone. Cretino. No, perché diceva sì, che lo aveva nostri per la questione delle partite IVA, mi pare, non mi ricordo. Alcune cose dei suoi film c'era del berlusconismo, adesso non so che mi ricordo. Vabbè, Zalone. Ma questo non me ne può fregare di meno, è bravo, sì, fa ridere, sì, questo mi basta. Tra l'altro oggi ha detto che grazie a chi si indigna la gente va a vedere il mio film. Secondo te, tra l'altro, non è vera questa cosa? Adesso non è che bisogna dare ragione. È stato bravissimo a promuoverlo, i film sono belli. E poi ci sono appunto i fenomeni di radical chic che dicono che se non ti fai il pippone di un'ora e tre quarti sulla retrospettiva del film muto bulgaro non sei degno di avere. Ma è come io godo sul fatto che Fabio Volo venda un sacco di libri, non è esattamente il mio best seller, però sono contento che la gente abbia anche voglia di svagarsi ogni tanto, visto che si massacra con Renzi che continua a dirci che l'Italia riparte, la vede solo lui l'Italia che riparte, almeno uno ogni tanto può sorridere. No, tra l'altro Fabio Volo, che una volta la radio ti ha trattato malissimo. Dandoti quasi del barbaro, diciamo. Per alcuni tuoi post su Facebook. Vabbè, ma chi non mi dà del barbaro? Cosa che non è molto difficile, diciamo. Barbaro sognante, dai. Non è molto difficile fare, devo dire la verità. Sognante, no, in un film con Checco Zalone, tra l'altro, c'era pure una parodia quasi antileghista. Non so se te lo ricordi, Parenzo. Anche dei primi in questo film. Anche in questo film ti svelerò. Cioè, non è c'è un diciamo personaggio che si chiama Salvino, che fa il bambino razzista. Te lo svelo, te lo giuro. L'ho visto ieri, era molto allora divertente. Riderò il doppio quando vedo il Salvino. Ti assicuro, cioè, non l'hanno scritto i giornali ancora, non l'ho visto, ma al cinema ieri c'era questo bambino. Matteo l'ha visto ieri sera. Parenzo l'ha visto ieri sera. No, ti assicuro, pagando il biglietto. Ovviamente. Ma Parenzo l'ha capito? C'erano i sottotitoli, quindi l'ho capito. Però c'è un bambino che si chiama a Palermo. Questo peraltro. Spero che l'abbia capito, sì. C'è un bambino a Palermo, fa molto ridere, che si chiama Salvino. E che è un po' il razzistello del gruppo, è molto simpatico. A me piace davvero ridere anche di me stesso, anche quando Crozza mi prende in giro, per me è bravissimo e può farlo abbondantemente. Se uno è bravo, è bravo. Se uno è bravo, è bravo. Bravo, su questo Salvini deve dire. Il ministro della cultura al posto di Franceschini, che è la tristezza fatta persona, sai come rilanceremo. Zalone, ministro della cultura, esageriamo. Però, ministro della cultura al posto di cosa? Tra l'altro, se in un governo ideale guidato da Salvini, Zalone, ministro. Guarda, io avrei già Mauro Corona con la delega alla montagna, Mauro la caccia, l'agricoltura. Mauro Corona ministro, Zalone alla cultura, poi? Assolutamente. No, poi fermiamoci qua. Poi devo scegliere fra Borghi e Bagnai come ministro dell'economia, che sicuramente meglio di Padoan farebbero ampiamente. Poi? Piano piano il ministero lo mettiamo insieme. Agli esteri che facciamo? Berlusconi. Berlusconi agli esteri. Berlusconi assolutamente agli... rispetto a Renzi sulla Libia, sulla Russia, sui rapporti Medio Oriente è avanti anni luce. Agli interni mettiamo uno di Casa Pound, così siamo tranquilli. No, gli interni li tengo io. Io per sei mesi, guarda, per recuperare il dramma di Alfano. Dammi gli interni per sei mesi, un po' di ordine in giro lo porto. Cioè, allora, Salvini premier e interim degli interni, beh, stupendo. Ma no, magari il premier lo fa qualcuno più bravo di me, dai. Vabbè, però adesso stiamo pensando all'ipotesi di un governo Salvini. Cioè, se tu non facessi il premier... E Cruciani alle telecomunicazioni. No, per carità. Non farei l'ascoltatore di prima. Farei crollare... rapporti col Parlamento, puoi metterlo. Salta tutto in due minuti. Quando uno chiede la parola, vaffanculo, cazzo, traffico, coglione. No, questa è la parodia ci può stare, che c'è, non me ne frega niente, ma siccome onorevole, tu sai che quando uno comincia a essere imitato, ci sono due radio che mi imitano, una su Radio 2 e l'altro è Radio DJ in un programma, cioè questo è il segno comunque un minimo di una certa popolarità. La cosa peggiore è essere assolutamente ignorato. Ecco, per esempio Parenzo non è stato riconosciuto durante una trasmissione di Rai 1. Non so se tu sei andato apposta, Parenzo, che era Rai 2 là, quella trasmissione. Sì, una specie di Vox Populi. Non ero apposta, ti spiego, mandala prima e poi sì, ti spiego. Dopo la mando, ero a fare la spesa per una cena, sai che faccio le cene a casa mia, no? Con gli intellettuali, molto, noiosi, quelli che a Salvini non piacciono, intellettuali, gente. Ero andato a fare la spesa. Un appello a favore della fame nel mondo, della tu sai, Matteo, tu devi sapere, non ti ha ancora invitata, no? Perché ci va Gad Lerner lì, no? Gad non è mai venuto. Matteo, devi sapere che Casa Parenzo sta diventando una sorta di... Una volta c'era il Casa Parenzo a Roma. Una volta c'era a Roma, no, il salotto della... Come si chiama? Quella della contessa. Angiolillo. Sì, il salotto Angiolillo. Poi c'era... Ecco, Casa Parenzo sta diventando, come dire, nella sua... Piano piano una specie di salotto dove ci sono le persone che fanno del chiacchiericcio. Molto, di sinistra. Persone molto di sinistra. Molto ben pensanti. A tavola. Quello serve. No, quello fa schifo. No, quello serve a tavola. Ecco, bravo. Come delle... Non è vero. Quello fa sempre orrore. A tavola che si discute, cioè, allora sì, problema dei migranti. Scusami, Ahmed, subito. E la basta. Ahmed. Vabbè, si battono le mani. Bene, Marchionne e Renzi. Ma figurati. Vabbè, adesso non tratterei pure mica male Marchionne. Cioè, Renzi è andato lì a fare, vabbè, la passerella, giusto, alla Ferrari. No, su Marchionne ha ragione Salvini, invece. Cioè? Ho sempre dato ragione. Perché la critica che Salvini ha fatto a questo signore che paga le tasse in Svizzera, ha ragione. Su questo ha ragione Salvini. No, ha trasferito sede legale e produzione di gran parte delle Fiat che circolano all'estero, peraltro. Bravo. Su questo ha ragione. Mi spiace. Stai dicendo che è un imbroglione, in pratica. No, sto dicendo che vedere i reciproci leccamenti fra lui e Renzi, dal mio punto di vista, è urticante, perché non so chi più dei due faccia meno gli interessi degli italiani. Cioè, Marchionne, secondo te, non fa l'interesse dell'Italia assolutamente? Cioè, fa i suoi interessi. Cioè, fosse per te, ecco, Salvini premier impedirebbe alla Fiat di andare a... Non so se sia possibile farlo. Nazionalizzerei la Fiat e qualche banca. Nazionalizzare la Fiat, ma come si fa? L'Italia, ad esempio, la Banca d'Etruria. Nazionalizzare. Sì, riportiamo sotto il controllo pubblico dello Stato, dei cittadini, dei risparmiatori, degli azionisti, dei proprietari. Adesso torniamo dopo la pubblicità. Lasciati un Parenzo e alla defecarsi non ci penso. La Zanzara. Get it! caro Parenzo, non abbiamo parlato, mentre è sempre con noi Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, in questo primo giorno della Zanzara dell'anno 2016, che sarà radiosissimo per noi, caro Parenzo, sarà un anno di grandissimo successo, già ve lo dico, però non abbiamo parlato della vicenda Cucchi, che è una vicenda incredibile, se vuoi, no? Lasciamo perdere la vicenda giudiziaria. La vicenda giudiziaria è in itinere, come si dice, no? È in sviluppo. C'è una nuova inchiesta dopo l'assoluzione delle guardie carcerarie e la condanna, credo annullata, adesso non mi ricordo, degli infermieri, no? Dell'ospedale dove fu ricoverato Cucchi, e sono sotto indagine dei carabinieri. Secondo l'accusa sono stati autori di un vero e proprio pestaggio nei confronti di Cucchi, ma si tratta dell'accusa, ovviamente. Ci sono anche delle intercettazioni in cui l'ex moglie di un carabiniere dice l'avete pestato, eccetera eccetera, però è la testimonianza durante l'intercettazione dell'ex moglie di un carabiniere che parla al telefono con un carabiniere. Poi ci sono le indagini, per carità, in corso. Può darsi che sia stato pestato dai carabinieri, però fino adesso non lo sappiamo, non c'è un'inchiesta. Cosa succede? La signora Ilaria Cucchi, che ha tutto il nostro rispetto, bisogna sorella di Stefano Cucchi, bisogna sempre permettere queste cose, se no uno sembra cattivo, e di cui uno ha il rispetto, e noi abbiamo grandissimo rispetto. Che cosa ha fatto? È andata su Facebook, ha preso la foto di un carabiniere, di uno di questi carabinieri, la foto in cui questo carabiniere si mostra, credo che sia una foto al mare di questo carabiniere, un po' palestrato, anche con il con la parte, le parti basse piuttosto in evidenza, ma questo ognuno fa quello che vuole su Facebook, fa il carabiniere. Cioè non fa il non è una, no, non è che fa il culturista, eccetera, è uno che ha mostra su Facebook il suo corpo, cosa che è legittimato a fare, e l'ha messa su Facebook e ha scritto delle cose. Sentiamo la Cucchi. E allora ho avuto la curiosità di andare sul profilo di questa persona a vedere chi era, a vedere il suo volto, e ho scoperto quello che ho pubblicato. Ecco, quella fisicità e quel modo anche di ostentarla si contrappone tanto con quello che era mio fratello, un ragazzo che pesava 40 kg e che è stato picchiato quella notte. Ho mostrato la fisicità. Cioè, non capisco che se il fatto di mostrare il proprio corpo sia un segno di colpevolezza, non ho capito. Comunque, la Cucchi cosa ha scritto? Volevo farmi del male, volevo vedere le facce di coloro che si sono vantati di aver pestato mio fratello, coloro che si sono divertiti a farlo, le facce di coloro che lo hanno ucciso. Ora questa foto è stata tolta dalla pagina. Si vergogna? Fa bene. Allora, io dico che è una sentenza già emessa, perché la signora Cucchi ha praticamente già emesso una sentenza dicendo che lo hanno ucciso. Dicendo che si sono divertiti a picchiarlo, eccetera eccetera, e poi dopo questa foto ci sono state minacce di morte, per carità, ci sono state anche nei confronti della famiglia Cucchi in tutti questi anni, minacce di morte nei confronti del carabiniere. Più tardi cercheremo di contattare anche l'avvocato del carabiniere, che ha già annunciato una querela nei confronti della Cucchi. Io dico che è una specie di gogna, o no, Parenzo? È una gogna nei confronti di questo. Ma quale gogna? Ma quale gogna? È il motto che va capito di una persona che ha sofferto nella vita molto, cioè la sorella di Cucchi, e che come tanti che usano in modo improprio i social network che tu tanto decanti, ha pubblicato la foto di uno dei presunti aguzzini. Ho capito, del fratello. Dandogli dell'assassino. Sui social dandogli network, dell'assassino. L'attenuante generica che sempre tu mostri nei confronti di miserabili che scrivono le peggio cose su Facebook, non so perché. Ma che c'entra questo? In questo caso, nel caso di una persona che ha sofferto con dolore la morte del fratello, non si capisce perché debba essere accusata di quale reato. Non sto accusando, non c'è o reato. Biasimata o ma quel scusa, che ma vuoi. Tu pubblichi la foto su Facebook di uno dandogli l'assassino. Assassino, dicendogli anche che è palestrato e fisicato. L'attenuante di una donna che è parte in causa e che ha sofferto un lutto come quello. Ma è una cosa fatta quello. Scientificamente, non c'è e nessuna che, cosa impulsiva. Ma scientificamente da chi? Cosa vuol dire scientificamente? Dai, Ilaria Cucchi ha scelto di fare quella cosa, non è una certo, cosa distinta. Ha avuto questo, un impulso sui social network. Vabbè, non è che Salvini, ci sono... che ne pensa Salvini di questa cosa? Capisco il dolore di una sorella che ha perso il fratello. Vedi? Ma mi fa schifo. Ma aspetta, però togli un attimo il viva voce, perché non sento, se no. No, non c'ho il viva voce. Ah, no, mi perché... senti? Sì, ti sento. No, dico che capisco il dolore di chi ha perso un fratello, però è un post che fa schifo. Mi ricorda tanto il documento contro il commissario Calabresi. In Italia c'è un'aula del Parlamento intitolata a Carlo Giuliani, uno che è morto mentre attaccava con un estintore una camionetta delle forze dell'ordine. Ci sarà un 1% di chi porta una divisa che sbaglia e deve pagare, anzi deve pagare doppio se porta una divisa. Ma io sto sempre comunque con polizia e carabinieri e averne di polizia e carabinieri come quelli che abbiamo in Italia. La sorella di Cucchi si dovrebbe vergognare per quanto mi riguarda. Cioè, per quello che ha scritto, tu dici? Cioè... Sì, perché ricordo, la storia dovrebbe insegnare. Qualcuno in passato fece un documento pubblico, intellettuali, sdegnati, contro un commissario di polizia che fu assassinato. Ora io auguro lunga vita sia alla sorella di Cucchi che ai carabinieri, che possono mettere una foto in costume da bagno sulla pagina Facebook, o un carabiniere non può andare al mare. E no, su questo non c'è dubbio. Ed è assolutamente vergognoso. Come ritengo che sia vergognoso, capisco che Parenzo debba reggere la parte. No, se non ci sarà una reggo la parte. Che ha sbagliato, paga. Però io sto comunque con polizia e carabinieri. No, guarda, non reggo la parte. L'avvocato fa bene a querelare la signora. Ma figurati, capisco il dolore della signora, e siccome spesso si giustificano le peggio cose su Facebook, anche la signora Cucchi è caduta nella trappola dei social network. Gli volete far pagare anche il prezzo di aver mostrato le sue emozioni. Ma infatti lo ha fatto. Ma poi addirittura ha ripubblicato la foto. Dopo alcune polemiche ha ripubblicato la foto. Ha biasimato quelli che hanno insultato il carabiniere. E cosa pensava di ottenere col suo post? Che facesse dei complimenti al tutore del posto dell'ordine? È chiaro che sarebbe successo questo. Dai, guarda, su, se dovessimo arrestare o querelare tutti quelli che scrivono puttanate sui social network, non sono puttanate, ma sai quanti ce ne sono che mi minacciano di morte su Facebook? Chi se ne frega, mi faccio una risata e vado oltre. Però, visto che di menti labili in Italia purtroppo ce ne sono tante, additare un uomo delle forze dell'ordine al pubblico massacro mi sembra demenziale. Non c'era tu comunque massacro. In questa vicenda di Cucchi pensi che i carabinieri siano innocenti? No, ma non faccio né l'avvocato né il giudice, non conosco gli atti, non mi permetto, ripeto, se qualcuno sbaglia. Mi sembra difficile pensare che in questo come in altri casi ci siano stati poliziotti e carabinieri che per il gusto di pestare abbiano pestato. Però se così fosse, chi l'ha fatto dovrebbe pagare, però lo si fa con una sentenza, anche se della giustizia italiana io onestamente non ho molta fiducia. Oggi ho letto che un giudice di Taranto ha rimandato. È incredibile. Al 2019 una sentenza dicendo perché lavora troppo. Perché dice che ha talmente tante cause la schiavitù non è ammessa. Ho lavoro giudice, troppo lavoro da fare, giudice, la schiavitù è proibita. Un giudice che lavora come uno schiavo. Così dice. La schiavitù è proibita. Cioè, perché i giudici secondo te lavorano poco? Fai un giro al tribunale di Milano dove ti mettono un foglietto fuori dalla loro porta: l'udienza è rinviata fra 7 mesi. Quindi fra 7 mesi, così magari Parenzo lo invita al suo cenobio di intellettuali, però insomma c'è qualcosa che non funziona. Comunque onore ai carabinieri e alla polizia. Vabbè, comunque al di là della vicenda Cucchi, mentre a sinistra a Milano hanno già deciso tutto, faranno le primarie, c'è questa... Stanno scannando come disperati. Vabbè, si stanno scannando, però ci sono le primarie. Però loro i candidati li hanno, voi. Vabbè, d'accordo, si stanno scannando, d'accordo. C'è una sana lotta, poi alla fine si compatteranno dietro un candidato, così diciamo in teoria. Loro ne hanno tre. Uno che si chiama Sala, una che si chiama Balzani e l'altro che si chiama Maiorini. Oggi tra l'altro ha detto una puttanata, devo dire, Parenzo. Questo Maiorino, che è consigliere comunale a Milano, forse non è conosciuto al grande pubblico. Assessore, beh, anche consigliere, credo. No, forse no, anche se è assessore al servizio sociale. È assessore al servizio sociale. Con i barbari leghisti oggi, attaccato i barbari. Vabbè, leghisti. Ma queste sono cazzate. Ma allora... è normale che un assessore, lo paghiamo anche noi. Vabbè, ma i barbari leghisti è un modo di dire, una minchiata che si dice in campagna elettorale, dai. No, minchiata. Vabbè, barbari leghisti è una puttanata, dai. Perché i leghisti hanno attaccato questo giusto provvedimento della giunta di dare i 400 euro a Chiosi. Vabbè, d'accordo. Comunque, la cosa che ha detto è che darà un assessorato a un omosessuale. È abbastanza nei confronti degli omosessuali. Ma pure secondo me. Ma che vuol dire che ci sarà un assessore gay? Ma che cazzo vuol dire? Come dire ci sarà un assessore, che ne so, un assessore indiano, un assessore senza una gamba? Ma che vuol dire, Parenzo? Ma per dire? C'è un assessore vegano. Un assessore vegano? Ma che... scusami, spiegami. Allora, c'è bisogno che uno dica ci sarà un assessore gay? Ma cosa vuol dire un assessore gay? Ma cioè... no, ma è come dire... È come ma dire... perché un assessore... Oh, un assessore... Detto, dillo, questa è una cazzata. Dai, dillo che è una cazzata, dai. Non cioè... ho sentito. Dillo. Non sei... No, mi manca il ritorno audio. Tecnici di Milano, si è rotto il microfono. Ma questo vale l'altro candidato Sala che ha detto avrò un vice sindaco donna. Ma io vorrei che tu avessi un vice sindaco bravo. Poi può essere donna, uomo, trans, gay, lesbica. No, però ci sono delle cose che sono simboliche. Ad esempio, se ci fosse un assessore all'integrazione, bellissimo. Se vinciamo un assessore migrante all'integrazione sarebbe giusto, meraviglioso. Beh, ex clandestino sarebbe, non comunque, sarebbe sbagliato. Torniamo alla cosa di partenza. Voi non avete un candidato, loro almeno tre ce l'hanno, diciamo. Appunto. Tutto. Io sto aspettando due o tre risposte di nomi che non vi darò neanche sotto tortura, ovviamente. Vabbè, ma i soliti imprenditori, cose generiche. Imprenditore, hai detto imprenditore. Ma basta, ma un politico in carne e ossa, uno che ci mette la faccia, lui. Dai, magari ci sarà anche lui, uno che ci mette la faccia, possibile. Comunque Sala ha detto un'altra cosa, che è lui è di sinistra. Ora io questa cosa divento pazzo. No, ma perché uno dovrebbe avere il coraggio di dire, perché io so che lui lo pensa, a me della destra e della sinistra non me ne fotte un cazzo. Uno dovrebbe dire così, a me, perché è così che la pensa. A me l'ipocrisia, siccome deve compiacere una parte della sinistra, io guarda, non ho nessun pregiudizio su Sala, ti assicuro, non ho nessun pregiudizio, probabilmente non lo voterò, ma non ho nessun pregiudizio. Ma ti dico che io l'ho conosciuto, non ci aveva raccontato quando venne a fare il city manager per Letizia Moratti e il centrodestra, che era sempre stato comunista. Che diceva? Non si finisce mai di... faceva il city manager. Non gli avevamo chiesto professione di fede, se uno è chiamato per fare un lavoro. No, però lavoro. Siccome lui ha sempre detto di essere stato di sinistra, ma a voi che vi diceva il contrario? Ma non diceva niente, ma probabilmente l'avremmo tenuto lo stesso, però mi sembra squallido doversi inventare un passato. Adesso magari ci racconta pure che ha militato nella Federazione Giovanile Comunista, non me ne può fregare. Non l'ha invitato nel tuo salotto ancora, Parenzo? No, ma io sto a Roma, quello sta... 24 il bilancio di Expo, quante centinaia di milioni di euro di buco ci sono, se ci sono, nel dopo Expo. Ecco, mi accontenterei di questo. Poi può fare il partigiano. Lui dice che non c'è stato nessun buco. Cioè, e pubblicalo il bilancio? Quanto è finito Expo? Quanti mesi sono passati? Possibile che dopo tutti questi mesi gli italiani non sappiano se davanti c'è il più o c'è il meno? Dica. Ma è stato un bravo manager o no? Sì, questo lo dicono, lo riconoscono tutti, anche Maroni. Con la Moratti è stato bravo o no? Moratti era stato un bravo city manager. E allora, se è stato un bravo city manager, ho visto che è sempre stato no, di ma fattivi delle domande. Fattivi delle domande, certo. No, ma guarda, no, però se noi scegliamo non in base all'appartenenza, ma in base alla competenza. Se poi uno si inventa altre cose, buon per lui. Però vuol dire che allora, a maggior ragione, Salvini dovrebbe dire voterei Sala, indipendentemente guarda, da con chi si schiera. È proprio il mio candidato preferito. Uno ma se riconosci di là con nonchalance totale proprio... No, ma scusa, se riconosci che è stato un bravo city manager, indipendentemente dalla casacca, il fatto che oggi si presenti con il centro. Sì, ma se per te... Io ringrazio per l'apporto che diede la giunta di centrodestra. Ecco, però, scusami, siccome l'esame del sangue dice che non ti interessa, se oggi... Ah, però c'è stato un bravo city manager... E allora dovrebbe votarlo oggi, ma no? A maggior ragione. Indipendentemente dalla scelta di campo. Mi viene in diretta domani alla Zanzara con i numeri finali del bilancio di Expo. No, poi una cosa è fare city manager, una cosa è fare sindaco, comunque sono due cose diverse. Cioè uno potrebbe... Penso che conosca le periferie di Milano, onestamente. Ma comunque resta il fatto che quelli hanno tre candidati che si battono. Primarie, chi sceglieranno. Però c'è un giallo. Io concluderei questo intervento di Salvini con un giallo. Con un giallo, il giallo di Salvini e delle stazioni di servizio. Musica. Delle stazioni di servizio. In alcuni video esclusivi consegnati alla Zanzara, Salvini si chiede: cosa succede intorno alle aree di servizio? Cosa sono quei guanti buttati intorno alle aree di servizio? Cruciani, che tipo di utilizzo avranno avuto questi guanti di plastica che io uso miseramente al supermercato? O sono tutti pulitissimi, magari fanno benzina e poi vengono qua dietro perché si vergognano. Ovunque guantini di plastica. Io ho un dubbio, io sono persona semplice che vengo dalla campagna, ma io li uso al super i guantini di plastica. Allora, La questione è molto semplice, caro Parenzo. E con la stessa felpa con cui si è presentato alla tua trasmissione, credo il giorno prima o il giorno dopo, il giorno stesso. Sì. Il giorno dopo. Il giorno dopo, Madonna di Campiglio. A Madonna di Campiglio, Salvini mi ha mandato sulla statale, guidando auto nostra, ci fermammo a fare rifornimento di benzina in provincia di Brescia e notammo centinaia di guantini trasparenti gettati in ogni dove nei dintorni della stazione di servizio. La qualcosa ci incuriosì. Ma che cos'è secondo te, scusa, questa cosa qua? Cioè questi i guantini che servono nell'area di servizio, secondo te a che cosa possono cioè, essere per usati? Scopi sessuali, dice, al posto di vedi te, cioè come fossero come fossero preservativi, non ho capito per che cosa. Può essere il dubbio che era venuto a noi giornalisti a bordo della vettura era quello. Cioè, capito, Parenzo? Vuole fare quello che vuole, però no, per carità, cioè, ci sono questi video in cui Salvini si chiede, divertito naturalmente, che cosa trova questi a bordo delle aree di servizio. Dove siamo ci sono al giornalismo investigativo qui. Ma assolutamente, beh, scusa, uno nota delle cose che notano tutti, cioè non è uno deve fare le inchieste che leggono quattro strano persone. Strano che il Sole 24 Ore non abbia dedicato tutti questi guanti, guanti, quelli che servono per mettere la benzina, no? Signor tutti Napoletano, questi... grande amico di Salvini. Il guanto di plastica abbandonato nel prato inquina, non è biodegradabile. Allora, la cosa è questa: i guanti di plastica che voi trovate nell'area di servizio, secondo Salvini, vengono utilizzati a scopi sessuali. Questo è il punto. E buttati poi lì. Ma a cosa servirà? Questo dubbio che non penso rubi il sonno agli ascoltatori, però mi aveva colpito e incuriosito. A presto, arrivederci. Un abbraccio. Ciao, ciao, ciao. Bruci la zanzara. Parla di figa, per favore, a noi non frega in casa di niente. Allora andiamo a Roma da Vito, vai Vito, vai, vai. Allora, caro Cruciani, io ho sentito spesso che ti sei, come dire, occupato di questioni molto intime. Sì, beh, assolutamente, sempre. In questa trasmissione si occupa quasi sempre di questioni intime che riguardano, come dire, anche i luoghi più nascosti alla vostra vista, ma che sono quelli che appartengono alle sfere più intime della persona. Sì, in realtà forse non so quanto consapevolmente, ma a mio giudizio tu fai un vero un intervento di servizio. Quindi un giornalismo di servizio. Beh, adesso non perché esageriamo, abbiamo... caro mio. Io ti ringrazio di questa cosa, ma non esageriamo. No, no, no. Il faux pas exagéré, come caso... si dice in francese, caro Parenzo. Il faux pas exagéré, no? Il faux pas exagéré. Ma il tema è semplice. Il tuo, ovvio che la tua provocazione è sempre presente, il tuo infotainment, tutto bene, tutto giusto. I tuoi chiari. Infotainment. Vabbè, dai, vai avanti. Ecco, allora, io dico, ho parlato con il medico che da 8 anni mi sottopongo io in realtà, ma lui mi accompagna in una pratica molto importante per stare bene in salute. Cioè, no, come tu hai un medico che da 8 anni ti accompagna ad una pratica importante. Otto anni che io faccio idrocolonterapia. Che fai da 8 anni idrocolonterapia, cioè? Colon. E cioè idrocolonterapia, sì. Idrocolonterapia è una pratica molto antica, che adesso è stata perfezionata, e che con l'acqua termale si fa il lavaggio dell'intestino grasso. Cioè del culo? Sì, partendo da lì, ovviamente. Partendo da lì, naturalmente, sì. Cioè, allora, la idrocolonterapia tu fai da 8 anni, ma quante volte all'anno? Che è un bel ambiente. Una volta all'anno? Sì. Vabbè, ma è dolorosa questa cosa? No, assolutamente. Come si fa? Si introduce un cannello che mette dentro dell'acqua calda. Sì. A 24 gradi, si parte da 24 gradi, poi si arriva a 38 o 39 gradi e con delle contrazioni che vengono stimolate anche dall'immissione di aria, quindi acqua calda, acqua fredda, eccetera, eccetera. Fredda si fa per dire, 24 gradi, però per il corpo è più freddo. Ma a che serve questa idrocolonterapia? A che serve? Serve a fare un lavaggio profondo della parte ultima dell'intestino. Così da eliminare. Cioè, quale sarebbe la parte ultima dell'intestino? è l'intestino grasso, sono circa 80 centimetri, la parte dove noi siamo tutti d'accordo, però adesso ci viene anche spontanea, caro Parenzo, la domanda. No, a me non viene, ma poco perché? Male, insomma. Perché questo racconto? Cioè, qual è l'obiettivo? Quando tu ti occupi di come ci si deve comportare dopo aver evacuato, tu dici una cosa sacrosanta, cioè in effetti il medico mi ha confermato che è il modo migliore per preservare la salute anche della prostata, perché si eliminano tutta una serie di tossine. Cioè, ma io che cosa ho detto? Io ho semplicemente detto che mi pulisco il culo con le mani, cioè non è che ho detto nient'altro. Cioè... Beh, no, ti pulisci il culo facendo bene un lavaggio nell'ano, eccetera, eccetera. Beh, questo... sì, certo, assolutamente. Il tuo medico ti ha confermato che questa è una cosa giusta. È una cosa giustissima. Che ne dica Parenzo? No, io non discuto questa, non mi sono mai permesso di entrare in questa accademia, diciamo, no? Questa lezione, in questo ginnasio. Vabbè, Vito, comunque, terremo da conto questa idrocolonterapia, ma fa male quando si mette questa cannuccia nell'ano? Insomma, non fa male, si mette un po' di vaselina prima, come tu. La vaselina prima. Mamma mia. Ma perché, mamma mia, Parenzo, non ho capito. Mi fa impressione. Perché ti fa impressione la vaselina? Mi fa schifo, fa un po' impressione. Anche, qualcuno mi dice che è dolorosa la idrocolonterapia. Secondo Vito, no. Non è dolorosa. No. Oh, se gli piace. Io lo faccio da 8 anni, non ho mai avuto dolori. Non ha mai avuto dolori. E che tipo di benefici porta? Porta, elimina molte tossine, come dicevo. E, guarda, lo fanno 2 o addirittura 3 volte l'anno, molte attrici in particolare. Che, molte attrici? Perché tra gli effetti che si determinano è un miglioramento dell'aspetto della pelle, cioè la pelle migliora, quindi lo fanno proprio per migliorare l'aspetto. Tutto qui. Cioè migliora l'aspetto, la pelle, queste cose qua. È la conseguenza dell'eliminazione di molte tossine. Vabbè, ciao Vito, ciao. E che cos'è? È che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Allora, vengo ad apprendere, caro Parenzo, che un signore che pare faccia lo scrittore e anche il professore universitario, un tale Massimo Onofri, tu forse lo conosci, scrittore, professore universitario, forse in Sardegna, non so dove, su un quotidiano sardo, La Nuova Sardegna, scrive del sottoscritto. Ho concesso un'intervista libera, no? Come sai, il 28 dicembre. Questo Massimo Onofri, persona sicuramente coltissima, per carità. In un passaggio di questa intervista ho detto semplicemente, mi hanno chiesto, ma ha mai fatto un'azione buonista? E io ho detto, ma no, mai. Ma dicendo in generale, non ho mai fatto donazioni, la carità, la beneficenza, queste cose qua, cose abbastanza note perché le ho già dette più volte. E poi ho aggiunto, guarda, mi capita qualche volta che sto in macchina, non voglio uscire, le poche volte che sto in macchina, magari piove, non voglio uscire dalla macchina, non voglio, sai, quando vai a fare benzina, e do qualche centesimo all'indiano, che al pakistano che sta lì, no? Alla pompa di benzina per farmi mettere la benzina. Sì. Non è che l'ho detto con disprezzo, figuriamoci, l'ho detto con disprezzo, cioè, per carità. Senti cosa scrive questo tizio. Mai vista tanta tracotanza e volgarità in così poche righe. Il cinismo sbandierato come la migliore delle cause possibili. Il crasso privilegiato che, compiaciuto di sentirsi, può comprarsi. Non so, è sbagliato pure quello che ha scritto questo Onofri. Correggessero meglio le bozze quando scrive gli articoli. Può comprarsi per pochi centesimi la dignità di un altro uomo. La convinzione stolta e inumana di credersi migliore di quel povero indiano esposto al freddo e a ogni umiliazione. La volgarità e la tracotanza di uno che si sente discepolo di D'Annunzio, ignorando del tutto che cosa siano Claudio Cantelmo e il supero mistico romanzo di cui è protagonista. La sua gretta e sconfinata ignoranza. Vabbè. Allora, a me non me ne frega niente di quello che scrive questo Onofri, non so manco chi è, per carità, va benissimo così e non è importante, ma non lo dico con disprezzo, dico semplicemente che qualche volta le interviste scritte hanno questo limite, che uno non riesce a cogliere le cose. Poi perché dovrebbe esserci disprezzo nel fatto di dare dei soldi? Quell'indiano o pakistano, quelli che di solito sono alle stazioni di servizio, no? Stanno lì per quello, cioè per ricevere del denaro. Cioè, beh, non è sì, che, questo è fuori di dubbio. Cioè, non è che stanno lì a filosofeggiare sul mondo, certo. sul terzo mondo, sui poveri, sui ricchi. Stanno lì per prendere dei soldi, fanno dei soldi stando al freddo, certamente. Poveri, cioè, non è che sto dicendo che fanno. No, sono nel migliore dei mondi possibili. Sono lì per prendere dei 20 centesimi, 50, chi dà un euro. Io di solito do dai 50 centesimi in su. Quello che mi capita a portata di mano lo do. Ma è normale. Quando sto lì, voglio farmi fare benzina, do dai 50 centesimi in su. Quanto cazzo devi dare? Cioè, non è che gli dai 5 euro, no? Cioè, altrimenti che dai, cazzo la fai fare la benzina? Almeno, no? Cioè, altrimenti vai, almeno 3 euro gli puoi dare. Ma no, ma di solito dai 50 centesimi. Quello che c'hai, gli spicci, guardi gli spicci e quelli giustamente ti sorridono contenti. Cioè, contenti che gli hai dato del denaro. Contenti, se tu mi dai 5 centesimi te li tiro in faccia 5 centesimi. Ma no, 5 centesimi è anche insultante, non glieli dai mai. Appunto. Cioè, gli dai quelle che hai, 50, 70, gli spicci, diciamo, un euro anche se capita, no? Però un euro un po' tiro del culo dare un euro, no? Perché altrimenti, cioè, non ha senso semplicemente per prendere la pompa di benzina e metterla lì. Mi pare francamente un po' esagerato. Insomma, prendi la pompa di benzina, metti lì e prendi un euro. È una specie di tassa, no? No, gli dai, gli spiccioli, gli dai. Ma è normale che sia così, quelli sono contenti. Cioè è una specie di lavoro, di piccolissimo lavoro che lavoro, fanno. È un lavoro, piccolissimo, certo, lavoro che fanno, per cui non c'è nessun disprezzo. Nella maniera più assoluta. Voglio rassicurare il signor Onofri, non c'è alcun disprezzo per questa manovalanza, per questo, no, per questi operai che stanno lì, prendono la pompa, mettono i soldi quando tu glieli dai. No, per nel sì, distributore sì, automatico prendono la pompa, ti mettono la benzina e ti ridanno le chiavi, sorridenti incassano i loro 50, 60, 70, magari qualcuno dà di meno e beh, nessuno rompe i coglioni. Io ho semplicemente detto questo. Qualche volta, certamente quando non ho voglia di scendere, c'è freddo, piove, eccetera, lo faccio fare all'indiano che sta lì apposta. Anche se fosse italiano sarebbe la stessa cosa. Non è un problema, anzi quelli sono quelli più innocui da un certo punto di vista, no? Che non ruberebbero mai nemmeno un centesimo. Non è che scappano col, no, coi soldi quando glieli dai, non, cioè sono sicurissimi da quel punto di vista, no? Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Adesso questa qua è la regia che mi rompe i coglioni. Ma non è così, cioè non è così. Io so io e voi non siete un cazzo. Questi sono importanti per il piccolo lavoro che svolgono e incassano il giusto che devono incassare, punto e basta. Gennaro da Roma, vai. Salve, buonasera a tutti. Volevo intervenire sulla questione del post pubblicato su Facebook da Ilaria Cucchi. E il post è stato quanto mai opportuno perché serve a rivelare e a svelare la cultura che è insita tra le forze dell'ordine, una cultura macista e fascista che è esattamente alla base della morte di Stefano Cucchi, perché la cultura macista, la cultura macista e fascista, la cultura macista e fascista non c'entra una mazza, amico. Non c'entra una mazza la cultura macista. Parlare a prescindere dal giudizio che ci sarà. Nelle intercettazioni viene detto: abbiamo ucciso quel drogato di merda. Si divertono con commenti proprio di quel tipo, a prescindere dalla colpevolezza o meno che il giudice stabilirà. Soltanto per aver pronunciato quelle frasi le persone andrebbero rimosse dal loro ruolo e dalla loro funzione nelle forze dell'ordine, perché questo poi rivela come manchi una selezione. E tra l'altro, vabbè, non esageriamo qua il sì, perché lei, perché se lei va a vedere quando si definisce drogato di merda e si vanta per aver picchiato drogato di merda lo dice, ma guarda che io sono il primo a riconoscere che dalle intercettazioni pubblicate dal Corriere, sì, ma lo sai chi lo dice drogato di merda? Non lo dicono uno, non sono intercettazioni tra di loro mentre parlano, è l'ex moglie di un carabiniere che litiga, l'ex moglie di un carabiniere che litigando con l'ex marito gli dice: voi lo chiamavate drogato di merda. Dunque, però, voglio dire, di cosa stiamo parlando? Della gente che dice: cosa? Se mi cacciano vado a fare le rapine. Certo, se mi cacciano e che vuol dire? E cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Questa gente andrebbe rimossa immediatamente, perché uno che se dice, se mi dice, quello è un altro quello è un altro quello si può discutere sul fatto che se uno dice Gennaro, ma ti sto venendo incontro. Ha messo in evidenza diversa, qual è la cultura che è insita tra queste persone, tra le forze dell'ordine, perché manca una selezione alla radice e porti ad avere queste persone. A parte che non è, poi, non è con la foto, non è con la foto di quello là palestrato al mare che si evidenzia questa presunta foto, presunta cultura. Ma rivelatrice di che? È uno che c'ha una foto in cui è palestrato e muscoloso, ma di che parliamo? Qual è rivelatrice di cosa? Ma che dici? Ma cosa dici? Ma perché uno non può avere i muscoli? Uno non può avere i muscoli. Ma perché non può avere, ma perché uno non può avere i muscoli, scusa? Nulla di male, a giudizio di Ilaria era rivelatrice. E Gennaro, scusami, rivelatrice, a parte che non è rivelatrice di la... qualche mese fa hai difeso uno che diceva di non essersi pentito per le azioni della Diaz e l'ha fatto intervenire in diretta. A voglia, come no? Cucchi per questo ma io non, sto attaccando, a parte che le due cose non sono collegate. Sì, io non ho difeso, anche quello era rivelatore della cultura politica che si annida tra le forze dell'ordine, perché uno che dice politica, non mi pento di quello che ho fatto a Genova è rivelatore anche quello. Ma quello non si pentiva, ma sono due cose completamente diverse. Fermo un attimo, fermo. Adesso la voce. Zanzara. Scusate, ma secondo voi a noi che cazzo ce ne frega se la borsa di Amsterdam ha guadagnato il 3,23%? Noi vogliamo sapere come ci si pulisce il culo. Allora, vogliamo ricordare, caro Parenzo, questo messaggio era fortissimo, devo dire la verità. Effettivamente, tra il sapere l'andamento della borsa di Amsterdam e notizie sulla pulizia delle parti intime, tu che cosa scegli? Dimmi la verità, però, adesso. La borsa? Dai. Sì. Borsa, certo, non c'ho dubbio. La borsa. Questo non credo. Allora, c'è un numero di telefono dove potete mandare i vostri messaggi, ve lo ripeto perché non vi è molto chiaro. 393-71-71-701. 393 è molto facile, 393-71-71-701. Comunque, messaggi, a scanso di equivoci. Audio, WhatsApp, dimmi. A scanso di equivoci, per tornare alla telefonata di quest'ultimo. No, ma di quest'ultimo, è ancora qua, Gennaro, Ecco, di Gennaro. Va ricordato Gennaro, quello che è. I simpaticissimi signori delle forze dell'ordine coinvolti nel pestaggio / omicidio del signor Cucchi. Ma no, ma questo lo dici tu, non c'è nessuna sentenza. Ma tu sei quello che parla sempre delle sentenze. Invece in questo caso... Calma, hai già condannato i carabinieri. Ma non l'ho condannato, non ti eccitare. Una cosa è certa, come ha detto la Procura di Roma, sono stati protagonisti di un violentissimo dell'accusa del PM. Allora, PM. Da un punto, aspetta, no, un momento, questo inequivocabilmente è avvenuto questo. Dopodiché è avvenuto, ma lo dici tu inequivocabilmente. No, ma chi lo dice? La cosa è certa. Ma ci sono i processi da fare. Quegli ematomi non se li è procurati da solo, non se li è procurati. Così come è vero che Gesù Cristo non è morto dal freddo, però può essere che sia morto. È morto dal freddo? Gesù. Hai già condannato i carabinieri. Va benissimo, per carità. Ci va può bene. Essere, come ho detto prima, un errore fatto dalla signora Cucchi. Però, siccome i social network sono pieni di bestialità, vogliamo in questo caso aggiungere dolore a dolore? Cioè, è umano che un difensore di uno dei carabinieri adesso, sentendosi offeso perché qualcuno lo ha sì. Vada a chiedere danno alla signora Cucchi che già ha avuto adesso, il dolore più grande, tra l'altro, che è quello di non sapere chi ha ucciso il fratello. Che dici, perché Gennaro? Sarebbe un errore quello della... Volevo chiedere perché sarebbe stato un errore quello della no, signora dico, Cucchi. Lei ha preso, io non penso post, ha fatto già una leggerezza, ha commesso esatto, lei ha pubblicato una foto che era già ha una commesso già una leggerezza probabilmente stesso. Ha commesso probabilmente amico mio, una se tu metti una foto dovuta di un... al fatto che è il dolore di una persona dolore. Che è coinvolta beh dolore. Sì è una persona coinvolta allora tutto beh, è giustificabile col dolore no non è giustificabile infatti qualcuno voglio... non è infatti non è giustificabile perché ne stiamo parlando i giornali Gennaro parlato, è quindi... stato messo alla berlina un signore che è indagato è chiaro o non è chiara questa cosa qua cioè un signore sì, che è indagato serve per rivelare una cultura politica una cultura che si annida tra le forze dell'ordine la cultura, ma la cultura umana, politica metto mano alla pistola alla cultura politica Cucchi, dall'inizio della vicenda ci ha permesso di accendere i riflettori su cosa che si sei? Annida tra le forze dell'ordine ma che fai comizio c'è qualcuno però... che si vantava di quanto è venuta la Diaz a Genova c'è qualcuno anch'esso. C'è qualcuno che pensa che per il solo fatto di indossare la divisa può fare quello che gli pare esatto. invece siccome il motto della polizia è sub lege libertas, c'è scritto, tatuato nelle divise della polizia, c'è scritto sub lege libertas, cioè vabbè, ragazzi, la libertà state parlando si di altro, realizza state parlando no, di altro. Chi ha la divisa la cosa non è molto sciolto semplice. I carabinieri, legge, i carabinieri sono indagati, punto e basta. Una signora che per carità sorella non è una, un di un morto, vabbè, la sorella di uno morto che non è, è non indifferente, vabbè, ma è non è che questo qua diciamo ti copre dalle no, stronzate carità, che puoi fare. Allora, non ti copre, però. Allora ha pubblicato la foto di un tizio dandogli sostanzialmente dell'assassino, no, anche in questa, dandogli... non è scritto che gli dà dell'assassino, ah, non è scritto, ha ucciso, ha ucciso mio fratello, leggi quello che ha scritto, ha ucciso mio fratello, hanno ucciso mio fratello, gli ha detto soltanto che si deve vergognare. Vabbè, vergognare di cosa? Hanno ucciso mio fratello, hanno pestato e ucciso, compreso quello là, hanno pestato e ucciso mio fratello, quello dice, ma è legittimo che lo dica. E questo dopodiché... emerge, cioè, sto leggendo vabbè, adesso, d'accordo. C'è un agente, donna, carabiniere, che dice esattamente Aridaie, questo, Mandolini, si è Gennaro! Se uno fa è assassino o no, non lo decidi tu, non lo decido io. Non lo dicono le intercettazioni, lo dice un processo. Però intanto queste parole sono rivelatrici. Vabbè, arrivederci. A prescindere dalla sentenza. Sì, sono rivelatrici. Ciao. Ma com'è che si chiama l'avvocato di coso? L'avvocato di chi? Di questo carabiniere, guarda. No, perché lo dobbiamo chiamare, non mi ricordo come si chiama. Eugenio Pini. Via col telefono, vai. Pronto? Avvocato Pini? Sì. Buonasera, sono Cruciani, salve. Ah, buonasera. Buonasera. Eccoci. C'è anche Parenzo, salve. Buonasera, Caparenzo. Caro avvocato. Allora, avvocato, ma è vero che avete denunciato Ilaria Cucchi? È vero che stiamo redigendo l'atto di denuncia querela e che verrà poi sottoscritto dal mio assistito. E beh, ma al di là dei tecnicismi... Quale sarebbe il reato, scusi? Aspetta, al di là dei tecnicismi denuncerete Ilaria Cucchi. Ma per che cosa? Per diffamazione. Cioè? Qual è la diffamazione? Beh, la diffamazione è l'attribuzione già della causa, non solo della causa della morte, ma anche della responsabilità della stessa. Cioè, qual è la frase esatta? È quella che potete leggere anche voi. Volevo farmi del male, volevo vedere le facce di coloro che si sono vantati di aver prestato mio fratello, coloro che si sono divertiti a farlo, le facce di coloro che l'hanno ucciso, e poi vabbè commenta la foto e altro. Cioè lei dice ha anticipato la sentenza per questo? Ma non solo ha anticipato la sentenza, noi ci troviamo di fronte a una causa della morte che non è conosciuta, cioè ci sono stati già due gradi di giudizio di merito, in più un grado di legittimità presso la Corte Cassazione, e la causa della morte non è stata accertata, cioè non è stato possibile affermare per quale motivo Stefano Cucchi è deceduto. Ma scusi un attimo, vi stanno arrivando minacce di morte? Minacciato, diffamato, ingiuriato, lui e i familiari. Cioè sono arrivate anche sono le conseguenze, sì. Sono arrivate telefonate, che cosa? Telefonate credo di no, per quello che mi riguarda tutto tramite Facebook e non so se addirittura per strada. Però è una situazione pesantissima. Cioè, di strada, per strada che vuol dire? Cioè minacciato personalmente per strada da chi? Persone che camminavano e l'hanno riconosciuto. Cioè io quello che voglio dire, che contesto, è che non si può in uno stato di diritto svolgere, ma anche la serenità dei magistrati, svolgere un processo in queste condizioni. Cioè in che senso? Mi scusi. Con centinaia di migliaia di minacce di morte e già sentenze di condanna che sono state già pronunciate, cioè le sembra un clima da processo in un paese democratico, cioè questo non è uno stravolgimento dell'ordine democratico, cioè voglio dire stravolgimento, ma perché dovrebbe essere lo stravolgimento dell'ordine democratico? Perché ma non è pensabile poter affrontare un processo penale in queste condizioni, è impensabile. Ma quali sarebbero le condizioni? Cioè il fatto che la Cucchi ha pubblicato la foto del suo assistito, che cosa? Allora la Cucchi ha pubblicato la foto del mio assistito, ha fatto quelle dichiarazioni e ci stanno centinaia di migliaia di offese ma questo qua ma allora denunci chi ha offeso il suo assistito, ma questo non fa parte del processo, avvocato. Appunto. No, io ho grande, io per me la Cucchi ha commesso un errore pazzesco su questa cosa qua, però questo non c'entra niente col processo, a meno che lei mi dica che c'è un clima già da sentenza, come dire, già da sentenza confezionata. Guardi, sui carabinieri, allora, io sto dicendo semplicemente che non è pensabile un clima di questo genere. Comunque lui si dichiarerà innocente? Allora, il suo assistito? Io, scusami, Cioè, no, ma questa è una domanda, lei fa l'avvocato, lei fa l'avvocato di un... No, ma di fronte a cosa? Di fronte alle accuse di aver partecipato a un pestaggio adesso. Di fronte a essere un carabiniere e aver svolto il suo lavoro da quando ha indossato la divisa. Cioè, se questo... Beh, ma questo che c'entra? Della questione. No, ma è fantastico. Con le dinamiche dei fatti. Cioè, lei mi sta dicendo che lui ha svolto il suo lavoro e non ha fatto nient'altro che svolgere il suo lavoro, anche nella vicenda di più. Che cosa ad oggi? Non abbiamo una causa della morte accettata. Quindi non sappiamo di fronte a cosa dobbiamo rispondere, perché non sappiamo di che cosa è morto Stefano Cucchi. Lei mi sta dicendo... No, siccome c'è un nuovo procedimento, altrimenti non sarebbe indagato per... Lo affronteremo nelle aule di giustizia. D'accordo. Però io quello che voglio dire, approfitto del contesto e me lo faccio dire, che tutti i processi di questa natura sono vissuti in questo modo. Non è pensabile. Possiamo dire, avvocato, che ha fatto una cazzata la sorella, secondo lei? E adesso cercherò il termine su qualche codice e poi... No. Cioè, è sostumibile. Non si può dire... Cazzata si può dire. Io vi guarderò sul codice penale se c'è questo. No, codice penale adesso. Sì, ma una battuta, nel senso, certo. Ma denunci quelli che hanno insultato il suo assistito, ma non la foto. Ma quello può avere un senso, ovviamente, secondo me. Ma dovrò paralizzare il mio studio e faremo solo questo. Scusa, se uno ti dà dell'assassino, tu che fai? Che cosa vuoi dire? Ti dicono hai ammazzato uno. Uno ti dice hai ammazzato uno, ma tu sei semplicemente indagato, che fai? Ti incazzi o no? Io ti arrabbi o no? Mi incazzo di sicuro, ma la signora Cucchi non ha dato dell'assassino. Ma come no? Ha detto che ha ucciso cosa? Non ha dato dell'assassino. Come, non ha, come ha no? Pubblicato la foto dicendo... Allora, scusi, ecco... avvocato, è vero che gli ha dato l'assassino, sì o no? Sì, tra l'altro l'ho appena letto, seppure divertito, no. A massacrare di botte, uccide mio fratello, adesso lo riporto nuovamente. Di che cosa stiamo parlando? Della foto. Della foto. Diffamazione che Ilaria Cucchi... Vabbè, quello verrà valutata. E poi soprattutto di quello che si porta dietro. Della supposta diffamazione. Vabbè, quello è chiaro. Della denunciante, cioè della diffamazione andremo a presentare, dell'atto di... Va bene, avvocato, grazie. Grazie. Grazie a lei, buonasera. Salute. Allora, l'avvocato che rappresenta il carabiniere, la cui foto è stata messa su Facebook dalla sorella di Stefano Cucchi, Ilaria Cucchi, tanto per ricapitolare la situazione, tanto per ricapitolare la notizia, ci ha detto che cosa? Ci ha detto in sostanza che uno, il carabiniere è stato addirittura minacciato di morte per strada da uno, cosa insomma, anche abbastanza incredibile se vuoi, perché non credo che venga riconosciuto così per strada il carabiniere. Comunque, crediamoci, no Parenzo? Boh, per carità. Perché se uno dice di essere stato minacciato di morte ci dobbiamo... No, è vero che in quel post pubblicato dalla signora Cucchi ci sono stati dei commenti di altri molto molto violenti. Questo però purtroppo appartiene alla dinamica dei social network. Cioè, io dicevo a quell'avvocato lì, denunciate quelli che l'hanno insultato. Vabbè, e minacciato. Quello vuole denunciare anche la non Cucchi. Non la signora che ha espresso un suo giudizio e parere da persona, come dire, interessata. No, ha dato dell'assassino uno che non è stato ancora condannato. Comunque punto, rimane al centro la questione di fondo è... questo paese si deve fidare delle forze dell'ordine. Vabbè, per potersi fidare delle forze dell'ordine, anche le forze dell'ordine devono andare sotto processo. Vabbè, si deve accertare la verità non cose corporative come sono avvenute, di difese corporative di colleghi che purtroppo non hanno parlato. Hai capito? Perché questo spesso succede a chi porta la divisa. Ma siccome adesso, non siamo in Cile, ma infatti ma adesso siamo in Italia, arrivati a un processo. Siamo l'Italia arrivati a un processo. E tu per primo, tutti dovremmo essere contenti che si celebra questo processo. Contenti, appunto, però prima perché di... abbiamo delle garanzie da chi ci protegge. Fino a questo processo questo quelli sono innocenti. Alessandro Perugia. E chi è adesso Alessandro Perugia? È un signore che una sono le 20:47. Io devo andare a mangiare la pizza con Natania e con mio cognato. Perché devo ascoltare Alessandro da Perugia? Adesso secondo ti te? Ti darà anche una ragione per ascoltare. Ecco, Alessandro, vai. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Ciao, dimmi. Allora, ciao. Io ve l'ho chiamato perché spiegami te. Sono stato praticamente per un mese in una comune di Osho. Ma quando sei stato in una comune di Osho, scusami? 2 anni fa sono stato. Ma perché esistono ancora le comuni di Osho? Sì, esistono, sono floridissime e fatturano tantissimo. Ma dove? Dacci qualche numero che lo chiamiamo domani, uno di questi santoni italiani di Osho. Numeri in Toscana. Cioè esistono delle comuni di Osho in Toscana? Chiamiamole alla zanzara. Vabbè, sì, ma volentieri. Ma allora, che cosa fanno questi signori della comune di Osho? No, cioè praticamente c'è... sono dei gruppi di meditazione. E vabbè, quello anche a casa mia si fanno i gruppi di meditazione. No, quindi non si medita a casa sua. Sì, no. L'avvocato Trucco no, durante le vacanze andava in una delle tante stanze di casa mia, sì, in Umbria, sì, fare... Ma spendi, a fare meditazione tranquillamente. No, meditava quello lì. No, meditava. Andava su, sono andato nella stanza della meditazione, nel salone della meditazione. Andava là, in uno dei tantissimi saloni di casa mia in Umbria, a meditare, diceva, perché non c'era nessuno. E no, ti giuro, meditava. La stanza lì. No, meditava, meditava. Vabbè, Alessandro, allora? No, allora... Oltre alla meditazione, cosa cazzo fanno in una comune di Osho? Spiegami. Lavori. Lavori, poi? Sì. Vabbè, lavori poi anche là. Lavori pure a casa mia, sì, abbiamo fatto i lavori. C'era gente che cucinava, eccetera. Cioè, benissimo, sì. Lavori, poi? No, poi fai altre meditazioni pagando. Aridaglie, con queste pagando. Pure, paghi pure per la meditazione, capito? Uno paga per la meditazione. No, sai, io divento pazzo. Ma cosa vuol dire paghi migliaia di euro? Vabbè, vabbè, se uno vuol meditare... Tu hai, anche tu che sei andato in questa comune a fare meditazione hai pagato? Sì, ha pagato mio padre. Tuo padre ha pagato? In che senso? Ma spiegami questa cosa, va dai matti. Tuo padre ha pagato per mandarti... Perché... Sì, sì, perché lui è un sanyasin. Tuo padre anche che cos'è? È un sanyasin, cioè questa specie di... non so, chiamo chiamarla religione, sette, eccetera, non lo so. I seguaci di Osho si chiamano sanyasin. Sì, sanyasin, so sì, se... sì, ho letto qualche cosa. Tuo padre, no, è tuo padre è un sanyasin? Sì, una volta, adesso non so. Una volta, e ha pagato per mandarti in questa comunità? Sì, sì, sì. Ha pagato, quanti soldi? Ma poi, cioè 100 euro, tipo. Ma vabbè, perché, 100 euro, poco, lavoravo un cazzo. 5-6 ore al giorno. 5-6 ore al giorno. Sì, sì. E che facevi in queste 5-6 ore al giorno? Ah, lavavo i piatti. Poi? Poteva venire a casa mia. Vabbè, cucina, piatti, meditavi, sì, poi? Sì. Poi niente, potevo fare meditazioni facoltative, cose così. Ed è servito, non mi pare? È servito qualcosa? No, ma non no, so, chiedo. Mi ho divertito. Ti sei divertito? Hai trombato? Mi ho divertito, vabbè. Hai trombato? Hai trombato? No. Cioè, ma dicono che si tromba in queste cavolo di... Ma che ce devo fare? Niente, purtroppo. Non hai trombato. Ma manco là. Ma si trombano in generale, si tromba o no? Nelle... Ma io no, non so. Però sarò stato sfortunato. Forse. Ma, Alessandro, scusa, però tu che cosa ci hai chiamato a fare? Per dirci che sei stato per un mese in una comune di Osho. Sì, sì, sì, volevo dire la mia testimonianza. Ma testimonianza, hai detto che hai pulito i piatti, hai pulito i piatti, hai meditato e poi, cioè, raccontaci qualche cosa di questa comune, no? Ma cioè, nel senso, si dorme tutti insieme. Sì, vabbè, sei su un dormitorio. Cioè, ci sono dei santoni, ci sono dei personaggi particolari, ci sono dei guru. Chi sì, c'è? Sì, cioè, ci sono i. Adesso non so come si chiama, a parte che tutti i nomi indiani, cioè dei nomi, non ti chiami Giuseppe. Cioè non ti chiami Giuseppe, cioè tu tutti come i nomi... ti chiami Alessandro da Perugia? Io, cioè, in realtà me l'ero inventato il nome, perché quando ti iscrivi, se c'hai nome, già un nome sanyasi, tu glielo devi scrivere. Io manco ero sanyasi, non sapevo che vuol dire. Ho cercato su internet, ci ho scritto, vabbè, Subrata Pal, che era... Com'era? Com'era? Subrata Pal. Cioè ho cercato il portiere dell'India. Mi sono chiamato come portiere dell'India, perché devi avere un nome portiere indiano. Dell'India. Ma tu ti rendi conto della presa per il culo che cos'è questa roba qua? Ma ti rendi, uno si inventa un nome indiano. Siamo alla follia. Cioè, invece di chiamarti David, vai in questa comunità ti chiamano Rapadan. Sì, ma uno può fare quello che gli mi pare anche innocua come passione. Assolutamente, qui, sì, assolutamente. Va bene. Assolutamente. Va bene, Stefano da Roma, vai Stefano. Buonasera, dimmi, buonasera. Dimmi. Cioè, voglio soltanto finire sta cioè, comunque stanno picciati questi, Non stanno bene queste persone. Cioè, paghi per andare a lavorare, vabbè, bene da dove sono, buono per me. Cioè, che io faccio bella il benzinaio. Sì, però è vero, insomma, una bella sintesi, paghi per pulire i piatti, per meditare. Una bella sintesi. Comunque, non stai bene, dai, su, vuol dire che stai messo veramente male. Vabbè, allora? Cioè, bisogna pagare, stai insieme alle persone. No, io voglio dire, io faccio il benzinaio. Siccome stavo a parlare prima dei benzinai, questi ragazzi che si mettono ai self-service va benissimo, però mo adesso è cambiata la tipologia del lavoro del benzinaio. Ci sono quelli proprio solo self-service, 24 ore su 24, e ci si mettono questi qua che in pratica è come se loro si appropriassero del posto. Questi qua, vabbè, a parte non è solo colpa loro. Vabbè, adesso questi si appropriassero del posto, amico mio. Stanno lì, aiutano la gente a fare benzina, adesso oggettivamente sono innocui. Per carità, a me il lavoro in nero non piace, ma questi qua stanno lì, fermi e benzina. Poi se la polizia fa un intervento e li caccia, va bene, non è che farò la difesa degli indiani. E che fanno? consapevolmente li stiamo arricchendo, perché quelli che stanno lì durante il giorno a questi distributori, c'è lo sconto, quello importante. Loro in pratica fanno 50-60 euro al giorno, anche se noi non ci rendiamo conto, li stiamo arricchendo inconsapevolmente. Tolgono il lavoro a noi. Che arricchendo è una parola un po' grossa. Cioè, gli dai dei soldi, non c'è, infatti uno gli dà dei soldi per mettere la benzina. Guarda, io faccio il benzinaio, non guadagno quello che guadagnano loro durante il giorno. Figuriamoci. Vabbè, ma dai, sì, te lo giuro, veramente, credimi. Perché quanti soldi fanno? Formato. Quanti soldi fanno? Singolo? 50-60 euro al giorno, 50-60 euro, senza tasse a nero. Fai il conto, 7 giorni a settimana quanti sono? So 400 euro a settimana, moltiplica il 4, so 1600 euro. Io lo riguadagno, io sto 10 ore al giorno sul distributore. Ma questo è un ragionamento, perché questo è un ragionamento, perché questo, però non credo che tutti, non credo che tutti, non credo che tutti fanno quelle cifre. Ci sono quelli che non danno neanche la mancia, per cui a domani, ciao. Allora andate al bar. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Enrico, concentriamoci, sennò perdiamo tempo. Allora, secondo te che cosa ho? Sei stronzo. Radio 24. La passione si sente.